Ma ciao amici di Runtime Radio, bentornati a questa nuova puntata di Everything, che è la trasmissione mia, Simone Pizzi, e di Michele De Paola. Salve a tutti, che bentornati. Torna dopo tanto tempo, che bello. Dove sei stato tutto questo tempo? A scappare dal coronavirus. Ma prima del coronavirus? Perché c'è stato un mondo prima del coronavirus. C'era un mondo prima del coronavirus. Pensa che roba, è incredibile, chi l'avrebbe mai detto? E un giorno lo racconteremo, c'era un mondo prima del coronavirus. Speriamo ci sia un mondo anche dopo il coronavirus, chiaramente. Vabbè, quindi scriveremo il mondo prima del coronavirus, ma me lo dovrete raccontare perché io non me lo ricordo più. Non te lo ricordi, va bene. L'ultima volta che ci siamo ascoltati con Everything abbiamo parlato di Brexit. Ce l'avevamo quasi fatta, però non è andata così come ci aspettavamo, con la nostra carissima amica Ilaria, che questa sera sarebbe dovuta intervenire, ma ci ha dato buca perché pensate, ci aveva da lavorare. È una cosa... Perché... In qualche posto del ancora mondo c'è ancora gente ancora che lavora. Però tu devi vedere la cosa positiva della questione, che noi in questo periodo riscopriremo, diciamo, hobby, passioni, interessi, omicidi, anche perché insomma sarà un po' questo. Che ne dici, insomma? Poi ne parliamo dopo di questo, ma questo tuo primo approccio adesso in questo momento, cosa ti sentiresti di dire? Ansia. Bene, è proprio lo scopo della trasmissione, insomma, quella di mettere l'ansia no alla gente. No panic. Mi sento di dire che, cioè, iniziamo con una carrellata dei cazzi nostri, come sempre. Tra l'altro, se andate sul Twitter Pizzi Simone 1972, vedete il no panic di Michela, cioè oggi con la mascherina andava in giro e poi ha comprato 62 rotoli di Scottex. Che oggi, quando è arrivato Amazon, è arrivato sto scalone gigante, dico oddio, mo che non bene. Insomma, una cosa veramente grossa. E poi Amazon adesso non ti consegna più dentro casa, quindi devi uscire. No, te lo devi andare a prendere. Ma da una parte giustamente, perché poi... No, però... vabbè, comunque mi sento di dire che, come l'amore ai tempi del colera, ci abbiamo in casa una rappresentazione dell'amore ai tempi del coronavirus, perché... esattamente nel bel mezzo del primo decreto, tra il primo e il secondo decreto, in cui Conte praticamente ci diceva dovete stare a casa, stiamo per arrivare alla pandemia, è arrivata Anastasia, quindi è arrivata mia nipote, lei ha detto me frega cazzo io nasco, e quindi... Ma forse è quello allora il problema. È quello, quello il... È il problema. No, quello è il segno che siamo comunque... arrivati alla pandemia, no, perché oggi è ufficiale che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è pandemia. Sì, però sì. Allora, diciamo una cosa veloce, così almeno poi diamo il via un po' alla trasmissione. Come abbiamo detto e ripetuto in diversi comunicati, noi di Runtime, dato che insomma avremo un po' più tempo a disposizione, cercheremo di fare più live, più dirette, per cercare di farvi compagnia, perché come il titolo della trasmissione, nessuno deve restare solo, nessuno resta indietro con noi, e questo è un momento in cui bisogna stare uniti, mano per mano, stare tranquilli e cercare di resistere. Poi passerà la tempesta e ci raccoglieremo i cocci, ma adesso non è questo il momento, diciamo. No, ancora c'è un frigorifero pieno a dispensa. Noi sì, assolutamente. Noi, quindi... noi non siamo quelli che vanno ai supermercati a saccheggiare. Noi abbiamo fatto prima piano, noi un po' per volta abbiamo fatto, per volta andavamo giù tu, e saccheggiavamo, insomma, il saccheggiabile. Detto questo, invece, però devo fare una piccola precisazione, che questa puntata doveva iniziare subito con un collegamento dall'Inghilterra, anzi due collegamenti all'Inghilterra, che purtroppo non ci saranno, come abbiamo detto. Insomma, Ilaria purtroppo non ce l'ha fatta, e anche l'altro ospite ha avuto degli impegni, ma anche lui veniva dall'Inghilterra. Tutte e due dall'Inghilterra. Me puzza di paura di coronavirus. Brutta storia. Ma comunque ritorneranno domani o dopodomani. Magari una trasmissione faremo di pomeriggio, quindi cercheremo comunque di intervistarli. La seconda parte della trasmissione invece inizierà alle 21:30 con una marea di ospiti. Comunque, cioè... io volevo annunciarti, per fare ancora carrellata dei cazzi miei, che ho rimediato una chitarra. Qual è lo scopo? Ah, ho capito. Quindi ti metti davanti a YouTube a fare i tutorial. Mi sono comprato sta chitarra per fare la vita meno male. No, l'ho rimediata. Poi dovrò restituire a fine pandemia. Ma perché sta già qua? No, ancora no. Ah, ok, meno male. Vabbè, no. Ma ancora c'è speranza. Me la portano a disinfetto e poi la userò. Ok. Comunque, dicevo, la vera trasmissione inizierà alle 21:30 con tutti gli ospiti. Nel frattempo, per cercare di ovviare a questa mancanza, quindi di questi ospiti, dato che noi non ci avevamo una scaletta preparata per questo buco, io avevo comunque registrato un'intervista che adesso vi faccio ascoltare, dura 30 minuti, quindi arriviamo poi direttamente, insomma, con ripartiamo poi con tutti gli ospiti. Lobby, sappiamo che c'è alle 21:40 importanti annunci da parte di Conte, li seguiremo in diretta, nel senso che cercheremo di leggere o comunque magari voi ci darete informazioni. Speriamo che non sia la sera, insomma, dell'apocalisse, però insomma poi... Ma già siamo in apocalisse. Esatto, cerchiamo di seguire. Quindi adesso vi ascoltate un brano, vi ascoltate questa interessantissima intervista che è un po' diversa da tutto quello che avete sentito fino adesso, perché cerca di capire che cosa succede quando... quando succedono situazioni di vera emergenza, grossa emergenza, dal punto di vista politico. Quindi adesso ci ascoltiamo Go dei Pearl Jam e poi andiamo con questa intervista e poi ci sentiamo nella seconda parte, dove ci saranno tutti i nostri amici di Runtime più qualche altro ospite. Quindi a fra poco. Ciao Michela. Ciao ragazzi. Sì, sta a leggere chat. Figo. No, vabbè. Stavo leggendo la chat di Runtime. A dopo. Ciao. Bene, allora, dopo la fine della prima parte di questa trasmissione, in questo momento sono da solo senza Michela, poi tornerà dopo con la seconda parte della trasmissione dove torneremo live, usiamo questo piccolo break, questo piccolo spazio per farci delle domande, diciamo, un po', diciamo, surreali, diciamo anche assurde, forse anche un po' fuori le righe. E siamo con Alessandro Padroncini. Ciao Alessandro. Ciao. Che Alessandro risponde, diciamo, a una domanda, a una conversazione che abbiamo fatto poi fuori onda, che nasce praticamente da una richiesta che noi abbiamo fatto nei gruppi di Runtime. Cioè, io ho fatto delle domande nei gruppi di Runtime, ho detto: conoscete qualcuno che può provare a dare, diciamo, un feedback, una risposta a queste mie domande? E grazie anche all'amico Francesco, ovviamente, abbiamo avuto l'opportunità di conoscere Alessandro. Io e Alessandro abbiamo già fatto questa conversazione fuori onda, però adesso cerchiamo un attimo di riassumerla, perché poi, al di là delle tante domande che io gli ho fatto, che si complicavano, si accartocciavano un po' una con l'altra, in realtà poi alla fine la questione è una sola. Però prima di andare sulle domande, Alessandro, intanto tu vuoi presentarti, così almeno se c'è qualcosa, insomma, che vuoi dire, perché dire, cioè, perché intervieni a questa trasmissione? Allora, io vivo a Reggio Emilia, quindi insomma ho una formazione, sono laureato in scienze politiche, ho una formazione, diciamo, di scienze dell'amministrazione, sostanzialmente teoria dell'organizzazione, E diciamo che tra alterne vicende mi sono occupato, mi occupo di progetti all'interno del mondo no profit, ecco, mettiamola così. E, rispetto ai temi della conversazione che abbiamo fatto in privato, che adesso magari andiamo ad approfondire, sono, come dire, da sempre interessato a queste tematiche, quindi insomma, do un contributo che sicuramente non è quello di, come si dice, un costituzionalista, però insomma sono abbastanza, credo, come dire, un po' ferrato su alcuni argomenti, poi insomma vedremo. Certo, tu reggi Emilia, ex zona rossa, che ex zona rossa Stavo perché per adesso dirlo, siamo ex, sì, cioè, esatto, siamo in non perché la quarantina, situazione è no. migliorata, perché la situazione è peggiorata, no? Nel senso Esatto, è tutto zona rossa. lo stavo per dire prima, ma visto che parliamo tutti quanti del coronavirus, ho detto tanto poi ne parleremo e quindi no, sì, in realtà qui le scuole sono chiuse da subito, sono chiuse dal 24 febbraio e poi insomma, sì, da domenica, prima che venisse esteso un po' tutta Italia, siamo andati in zona rosso arancione, che dir si voglia, insomma, qui i colori contano poco perché alla fine, insomma, Sì, sono gli esatto. effetti. Beh, infatti vedo che hanno cambiato anche il protocollo denominativo della cosa, no? Nel senso, ormai Ma sì, io non è credo che il più zona colore a volte rossa. serva, magari il rosso spaventa di più perché è associato all'idea di pericolo, lo chiamiamo arancione, perché, però non lo so, è un'ipotesi, però tendenzialmente, cioè, i soldoni, le misure sono poi quelle, ecco, quindi anche se quello che è previsto per la nostra zona, adesso per tutta l'Italia, non era propriamente quello che era previsto nella zona rossa, Della propriamente detta Lombardia. del Luciano e di Volganio, perché là, diciamo che là, come dire, adesso io leggevo prima che i presidenti di Veneto e Lombardia, se quello che ho letto era corretto, proponevano anche una chiusura totale, per cui quello, diciamo, è più vicino a quello che succedeva fino a qualche giorno fa nell'Odigiano, ecco. Certo, com'è la situazione dal punto di vista, ecco, te come esperienza, la tua professione, quanto ti sei fermato, quanto sei costretto a stare fermo? Allora, io sono vicepresidente di una cooperativa sociale, in questo momento, e noi una cooperativa qui di Reggio Emilia, noi l'abbiamo, diciamo che la cooperativa è per i quattro quinti ferma anche se diciamo, l'apparato amministrativo lavora in remoto, lavora con quello che è lo smart working, diciamo che è un termine che adesso, fino all'altro giorno non era di moda, adesso sì. E per il resto abbiamo sostanzialmente un servizio legato all'assemblaggio, dove, perché una cooperativa che tra i vari servizi si occupa di inserimento lavorativo di persone disabili. Ora, le persone disabili o a disagio sociale, i tirocinanti sono tutti a casa, ci sono soltanto i dipendenti. Tre o quattro in questo momento, se non ricordo male, se ne occupa una collega, non fosse cinque, comunque vabbè, e ci sono solo loro che adottano ovviamente le misure di precauzione e quant'altro, per il resto tutto sospeso. Quindi, come Certo. dire, in realtà noi siamo andati abbastanza avanti con tutte le dovute precauzioni fino a venerdì, devo dire, ma con oggi, scusa, con ieri è tutto sospeso, tranne appunto l'attività di assemblaggio perché è legata a delle aziende private che per il momento sono aperte. Bene, bene. Vabbè, quindi La vabbè. strada, io sono a casa, la strada insolitamente, io vivo su una strada abbastanza, insomma, quella che per chi non conosce, da Reggio Emilia a Porta Scandiano, che è un grosso centro a 10 km da Reggio, e di solito è abbastanza piena. Devo dire che, Che insomma, è poi è lo scenario abbastanza. un po' quello che fa più effetto dal punto di vista psicologico, no? Nel Sì. senso, comunque, è quello che ci abbiamo intorno, che un po' diciamo ci dà questa atmosfera surreale, no? Che alla fine poi è quella che mi ha stimolato poi le domande che in realtà adesso andiamo a fare, no? Perché poi io e te abbiamo fatto questa conversazione in privato, appunto abbiamo detto, abbiamo fatto una serie di domande, però andiamo un attimo secondo me, al succo di queste domande, perché queste domande un po' alla fine giravano intorno a un problema, e poi alla fine siamo arrivati un po' al quid, secondo me, perché si fa. Negli anni noi abbiamo sempre parlato di un'ipotesi, diciamo, di problematica dal punto di vista virale, potenziali pandemie, ne abbiamo parlato insomma tantissime volte, anzi alcuni scienziati sostengono che in realtà non era una questione di quando, cioè di se sarebbe successo, ma quando sarebbe successo. E tra l'altro noi parliamo invece di un problema questo del virus, del coronavirus, che poi in realtà è un problema ancora sostenibile, affrontabile, no? Però possiamo ipotizzare degli scenari assurdi dove praticamente c'è un virus molto più potente, molto più pericoloso, o un attacco batteriologico a livello generale. E ci siamo domandati, ma in Europa e nello specifico in Italia esistono dei protocolli più o meno che possono mettere in garanzia quello che è l'esecutivo governativo, cioè quindi praticamente quella parte più essenziale del governo, al di là del discorso del fatto che poi siamo una repubblica parlamentare e che quindi dovrebbe poi funzionare un po' tutto il blocco istituzionale, no? Vai. No, dimmi. No, No, vai, vai. tendenzialmente il punto è che se noi ci cioè adesso, al di là del coronavirus, se noi ci confrontiamo ad esempio con la Cina, perché adesso leggo, sento, tutti stanno dicendo ma perché là hanno bloccato, là sono Grande più modello liberi della Cina, adesso sicuramente. esce fuori che è il grande modello della Cina, capisci? Quindi è un po' No, ma questo. infatti, no, nel senso che, ma sicuramente, allora, sicuramente gli italiani non brillano, adesso per rispetto delle regole, anche se io credo che dopo queste ultime normative, magari mi sbaglio, io penso che dopo l'ultimo assalto ai supermercati di ieri sera, no, scusa, sì, di stanotte, io credo che in realtà verrà un pochino più rispettato, ma a parte questo, è evidente che quello che si può fare all'interno di un sistema autoritario o comunque non democratico, mettiamola così, non, e sia molto più difficile farlo all'interno di una democrazia. In questo senso, l'Europa è molto fragile, cioè molto fragile, ma che è un tema peraltro che pochi magari ci pensano, che può essere anche collegato al terrorismo. Cioè, quando si parlava di terrorismo, si parla Esatto. di terrorismo, si dice: ma dobbiamo limitare le libertà individuali, ma fino a quanto le possiamo limitare per non negare la nostra natura di democrazia? Che è un tema non filosofico, è un tema importante. E di conseguenza, come dire, poi le costituzioni, anche la nostra, o comunque le leggi, prevedono, diciamo così, come dei meccanismi. No, nel senso che dei meccanismi di sostituzione, di supplenza e anche dei meccanismi di limitazione della libertà. Però ovviamente deve essere per effettivi pericoli legati alla sanità o alla sicurezza. Per esempio, se noi andiamo a prendere la Costituzione, all'articolo 16 la Costituzione cioè, pa si parla di una possibilità di limitare la libertà di circolazione, e o all'articolo 17 la libertà di riunione. Ovviamente non è che può essere fatto così senza motivi, perché altrimenti non è più una democrazia. Ovviamente deve essere tra l'altro questa scel una scelta fatta come queste ultime qua precedenti, sono scelte senza precedenti. Quindi per gravi ragioni legate alla sanità o alla sicurezza, e attenzione, deve essere sempre comunque, oltre che esserci un pericolo grave, ci deve essere sempre una scadenza. Cioè, noi adesso abbiamo il 3 aprile, speriamo che sia la scadenza, ma comunque anche se si dovesse prorogare, non esiste che si dice adesso no, si proroga per sempre, perché ovviamente ci deve essere una scadenza in questo senso. E chiaramente, come dire, questo il governo a sua volta si può sostituire in caso di pericolo grave agli enti locali. Quindi, come dire, poi chiaramente viene la collaborazione, perché poi l'ente locale magari che applica sul territorio la decisione. Però, come dire, ci sono dei meccanismi. È evidente che le nostre democrazie sono molto più fragili rispetto alla possibilità di applicare cioè di fare rispettare una sorta di coprifuoco in qualche modo. No, perché io ho la sensazione che, vabbè, questa è una sensazione, questo poi appunto abbiamo parlato anche questo di fuori onda, no? Che noi abbiamo appreso, quindi non lo sappiamo perché non abbiamo una cognizione istituzionale, no? Di quello che possono essere gli Stati Uniti, però abbiamo la percezione, da quello che vediamo nei film, che il gabinetto degli Stati Uniti, in caso di particolare emergenza che possa compromettere anche la salute stessa del governo, comunque hanno dei protocolli di sicurezza dove loro vengono messi in una determinata situazione e dove si applicano, diciamo, un'impostazione appunto della legge diversa, quindi magari coprifuoco, quindi, cioè nel senso, quindi, diciamo, una sorta di, tra virgolette, legge marziale, no? Noi in Europa non abbiamo questa cultura, questa visione, diciamo così. Ma infatti io prima ho parlato di Europa non a caso, nel senso che comunque l'Europa, cioè gli Stati Uniti sono sicuramente una democrazia e nessuno lo può mettere in causa, in dubbio, ma sono una cosa diversa chiaramente. Intanto perché se noi ci pensiamo, noi quando pensiamo agli Stati Uniti, al governo, pensiamo al presidente, che è giusto perché è il capo dell'esecutivo, cioè non c'è la figura, cioè paradossalmente in un sistema come il nostro, italiano, ma per dirvi anche il sistema tedesco, no? Addirittura nessuno praticamente sa come si chiama il presidente della Repubblica Federale Tedesca, perché ha ancora meno potere del nostro. Da noi, diciamo, cioè, la situazione è molto diversa rispetto a questo. Poi questo non significa, attenzione, che abbiamo, come dicevo prima, delle possibilità al governo di agire, ma è evidente che il modello americano è diverso. Il presidente, peraltro, è un presidente elettivo, il che gli conferisce enorme legittimazione. Questo non sto dicendo che il presidente del Consiglio eletto dal Parlamento non sia legittimato, Vabbè, è assolutamente, un'altra ovviamente. formula Era un'altra costituzionale. formula, cioè io una cosa che voglio dire, non a caso c'è un protagonismo in questi giorni dei presidenti delle tre regioni, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia in particolare. Perché comunque, al di là di quello che dice la Costituzione formale, esiste una Costituzione materiale in un qualche modo, per cui alla fine queste sono tre persone legittimate da un voto popolare. Adesso poi Bonaccini in particolare in Emilia, con tutta no? La lotta che c'è stata, prima, nel senso, in questo senso sono molto protagonisti. Altra cosa mi viene da dire, il Presidente del Consiglio in Italia, se lui non può, in caso di assenza, per esempio le riunioni del Consiglio le presiede il vicepresidente. Se ci sono più vicepresidenti, lo fa il più anziano. Però il vicepresidente è una figura eventuale, nel senso che non è obbligatorio che ci sia, per cui nel caso è il ministro più anziano per età. E questo non lo dice la Costituzione, ma come vedi ho anche un po' studiato, sono andato a leggermi due robe, lo dice la legge 400 dell'88, che peraltro è una legge che disciplina l'attività di governo e insomma, rispetto all'ordinamento della presidenza del Ok, Consiglio dei quindi qualcuno Ministri. si è No? posto il problema, no? Cioè, nel Sì, senso. qualcuno si è posto il problema. È chiaro che in un sistema parlamentare, eccetera, eccetera, eccetera, ovviamente ci sono una serie di passaggi, come dire, cioè le nostre secondo me sono democrazie che funzionano più in situazioni di tranquillità. Per cui questa credo che sia anche La crisi libica. Esatto. una grossa sfida per la nostra democrazia, per la nostra Repubblica in termini di funzionamento, no? Per cui, come dire, poi ecco che va, il governo può nominare, o meglio, su proposta del Presidente del Consiglio. Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può deliberare come si dice, la nomina di un commissario. Tra l'altro, mi pare, non vorrei Che ne dire. stanno parlando poi di questo super Esatto, se ne commissario sta parlando di un straordinario. commissario straordinario al quale puoi attribuire determinati poteri, ovviamente nel rispetto della Della Costituzione. Costituzione, Anche certo. qua, cioè, nel senso, adesso non che cadesse in Cina, però per dire, paradossalmente, in un sistema non democratico si può anche dire che non si esce per nulla, che ti porti il cibo a casa e che se tu esci, non so, non dico che ti sparo, ma tanto che non sto sostenendo che vada fatta, sia chiaro, dico No, in ma un io penso sistema. che gli sparano anche, magari, però vabbè. Penso anch'io, ma io ho letto che in un posto di blocco uno è stato arrestato, poi è stato condannato a morte, però in realtà il tipo aveva anche ucciso il poliziotto che l'aveva fermato, so, quindi, Ah, ecco. poi io sono assolutamente contrario alla pena di morte, però è chiaro Assolutamente, che è vabbè, una cosa certo. diversa rispetto a cioè non Era hanno solo, una. è diverso se era solo scappato, tu dici, Sì, quindi non esatto, può. però credo che, cioè, da quello che leggo, che ho letto, non sono molto teneri, ecco, rispetto. Ora, diciamo che una democrazia deve comunque cercare di non negare troppo a se stessa. Il punto è, ci sono situazioni che mettono in seria difficoltà questo equilibrio. Cioè, Esatto. tra sicurezza della salute del paese, insomma, dei cittadini e, come dire, identità di una democrazia. Perché effettivamente, se ci avessero detto 2 mesi fa, che oggi cos'è, il 9, 10 marzo, ci sarebbero state limitazioni nella libertà di riunione, fondamentalmente, no? E nella libertà di circolazione, avremmo detto, ma a chi ce lo diceva, ma sei matto? Certo. Invece siamo di fronte a questo. Ovviamente non è perché sia arrivato il fascismo, siamo di fronte a questo perché c'è un rischio molto No, grave. comunque in Italia non esiste comunque una legge straordinaria che dice in caso di totale emergenza Tizio comanda su tutti, cioè nel senso No. questo diciamo che Tizio comanda su tutti? No. Diciamo che, come dicevamo anche nella nostra chiacchierata precedente, se il presidente, partendo dalle cariche, insomma, dalle due cariche, insomma, il Presidente della Repubblica, se lui non può adempiere alle sue funzioni, le funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato. Ovviamente parliamo di impedimento temporaneo. Temporaneo può dire semplicemente anche andare a fare un viaggio, che ne so, di lavoro per un tot. Mentre in caso di impedimento permanente, morto, dimissione, il Presidente del Senato cioè fa una supplenza finché non viene eletto Presidente nuovo. Cioè non è, Ok. okay? Quindi non, tieni presente che cioè, in questo caso è il Presidente della Camera dei Deputati che indice l'elezione del Presidente della Repubblica. Sono andato a vedere, mi pare che la supplenza più lunga è stata fatta negli anni 60 perché il presidente Segni ebbe un problema di salute grave, per cui ci fu una presidenza, come dire, una supplenza più lunga, ma non è ovviamente una cosa rituale. Tieni poi sempre presente che negli Stati Uniti, ad esempio, la figura del vicepresidente è una figura non irrilevante, cioè tanto noi non abbiamo un vicepresidente della Repubblica, anche non abbiamo dei vicepresidenti del Consiglio, spesso una carica utilizzata più per una ragione di contrappesi politici, no? Sì, spartizione. Beh, sì, esatto, spartizione, nel senso che se ci sono, come non ci sono governi di coalizione, non, normalmente, no, il primo partito si becca quello, ma non solo adesso, insomma, è una cosa abbastanza normale per l'Italia, e quindi sono comunque figure tendenzialmente deboli quelle dei vicepresidenti, cioè adesso senza entrare sul dettaglio degli attuali, più No, no, no, generale. ok, non tu parli delle persone, ma Sì, parli proprio della non figura, parlo certo. della qualità, dico in generale, sono figure, anche perché sono figure, intanto quando, cioè la legge dice che possono esserci, ma possono anche non esserci. Quindi quando una carica non è necessaria, insomma. E quindi insomma diciamo che poi non ci può essere una situazione in cui non c'è un governo, cioè a meno che non arrivi la bomba nucleare, cioè non ci può essere una situazione in cui non c'è un governo, perché anche se un governo è dimissionario, comunque rimane in carica per l'ordinaria amministrazione. Questo succede prima delle elezioni, no? Quindi non può esserci una situazione in cui non c'è un governo, anche perché poi comunque una democrazia parlamentare, finché c'è il Parlamento può esprimere una maggioranza. Se la maggioranza non c'è, si va alle elezioni. È evidente, poi ho ipotesi un po' di scuola, anche se la situazione del virus ci fa capire che le ipotesi di scuola si possono verificare. Si dice di scuola, no, per dire con ipotesi un po' poco realistica, ipotesi nel quale, come dire, il Presidente del Consiglio non può, come dicevamo prima, le riunioni sono presiedute dal Vicepresidente, se non c'è il Vicepresidente dal Ministro più anziano, e un Ministro più anziano c'è, o a meno di ipotizzare che manchi tutto il governo, però sarebbe, Sì, nel vabbè, senso. un caso limite del quale però prima o poi secondo me qualcuno dovrà porsi un po' il problema. Ah Senti. sì, io non, adesso in tutta onestà, io non so se non credo, ecco, che siano state fatte grosse, però potrei O a sbagliare, meno che noi non lo sappiamo, che esistono dei. grosse speculazioni su questo, ecco, potrebbe, sì, è un'ipotesi molto limite, ecco, mi sento di dire. Senti, concludendo, volevo farti questa domanda che è più un'opinione, anche un po' di percezione, no? Perché noi comunque nell'era repubblicana abbiamo vissuto determinate crisi, ecco, magari quella più eclatante, diciamo, è stato il periodo del terrorismo, no? Quindi l'era di Moro e tutto quello che comunque ha seriamente messo in discussione anche l'equilibrio civile, no? In Italia. Certo. Ma questa è probabilmente la prima volta che vengono applicate delle misure straordinarie come quelle del divieto d'assembramento, anche se io ricordo che comunque durante il periodo del terrorismo a Roma c'era un coprifuoco virtuale, no? Cioè, nel senso non era effettivo, nessuno l'aveva dichiarato, però poi alla fine nessuno girava di notte, no? Nel senso comunque c'erano camionette, c'erano militari e c'era tutto quello che ne competeva, insomma. Però questa è forse la prima volta dove ufficialmente, in maniera esplicita, vengono limitate le libertà personali, e come abbiamo detto, anche le libertà di assembramento. Sì, Ecco, secondo te la esattamente. gente ha la percezione di questo, cioè di quanto sia straordinario questo evento? Secondo me, se avessi dovuto rispondere a questa domanda anche solo 3-4 giorni fa, avrei detto di no. È vero che uno mi dice non c'era, in realtà qua c'erano già delle misure, quindi posso portare anche il polso della situazione qua, nel senso che sono sincero, faccio un po' anche l'autocritica. La prima settimana io sono stato tra coloro che un po' tendevano a minimizzare, cioè non ho problemi a dirlo. La seconda settimana, intendo la scorsa, ho iniziato a pormi a avere qualche dubbio, leggendo qua e là, e adottare delle precauzioni maggiori. Faccio mea culpa, nel senso che io martedì scorso, al termine di una cosa di lavoro, ho preso uno spritz. Non eravamo, e scherzavamo anche un po' sulla distanza. Poi pian piano devo dire che questa, però la mantenevamo, e a volte scherzare si esorcizza, quindi, però pian piano si è insinuato un po' il dubbio. Io credo che la consapevolezza stia crescendo e credo che non stiamo parlando di un periodo di un giorno o due, stiamo parlando di un periodo considerevole, il 3 È aprile abbastanza, sì, certo. non è qua che arriva subito subito, infatti. Cioè, quindi io penso che ricadute così forti sulla vita quotidiana delle persone credo che renderanno tutti edotti nel fatto che ci sono, è la situazione eccezionale. Io devo dire, sono 2 giorni che praticamente sto in casa, tranne andare a prendere la posta, la cassetta delle lettere, quindi non ho visto posti di blocco, perché sotto casa non ce l'ho per fortuna, ma mi dicono amici così che ci sono. Quindi anche questo, la presenza, come si dice, pratica, no? Dello Stato, perché poi quello è lo Stato, no? La polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, quelli che potranno fare, mi pare che anche i vigili del fuoco potranno farlo, non, ripeto se ho detto una cosa non vera, mi scuso, ma mi pare di sì. In ogni caso, di chi potrà controllare la necessità di giustificare, ma quando mai noi abbiamo giustificato uno spostamento? Cioè, questa è una roba incredibile, no? Cioè, Certo. credo che nel 2020 in Italia penso che noi e gran parte dei nostri genitori, più indietro non vado perché insomma, per chi è ancora in vita, chiaramente lì andiamo in altre epoche storiche non confrontabili, però insomma, quando mai mi è capitato di dover firmare un foglio in cui dico che devo andare. Scusa, che devo spiegare se vado a lavorare, se vado a fare la spesa. È capitato una cosa. Tra l'altro, in termini, cioè adesso, nel senso, è anche una legittima, se ben chiaro, non la sto criticando, Dico, cioè, è anche, come dire, un'intromissione in un discorso di privacy, no? In qualche modo, ma per tornare a una delle cose che ci dicevamo, lo Stato, cioè in scienza della politica, spesso cioè spesso, una delle cose che si imparano è che lo Stato praticamente è un po' colui, personalizziamolo un attimo, che detiene il monopolio della forza. E quindi lo Stato, attenzione, siamo una roba da vecchio modo, insomma, da Stato prussiano, però in realtà lo Stato è, nel senso, la polizia se spara è legittimata a farlo, nell'ambito delle garanzie costituzionali, sia ben chiaro. No? Chiaro. Quindi io non è che posso mettermi giù a fermare gli inquilini, diciamo, i vicini di casa e chiedere dove vanno, la polizia può farlo, quindi è tutto legittimo, però è evidente che io credo che ci siamo svegliati noi al nord lunedì, tutto il resto d'Italia martedì, quindi siamo praticamente Oggi, insieme, oggi sì. e molto diversi da come ci siamo svegliati fino a 3 settimane fa. Non Ma credo. secondo te, quindi chiudendo un po' questo tipo Sì. di discorso e poi ti saluto, secondo te, guarda, è un paradosso sta domanda, cioè prendila proprio tra virgolette con le dovute pinze, secondo te ce ne avevamo bisogno? Allora, questa è una domanda alla quale stanno parlando, alla quale stanno rispondendo in molti, effettivamente se la stanno ponendo in tanti. Ma allora, dire che c'era bisogno di un virus passerei per folle, Sarebbe una ovviamente. sciocchezza, certo, ok. Sì, ovviamente se ne faceva. Allora, dico una banalità, se ne faceva meno. Stavamo meglio senza. Però, beh, questo penso di sì, cioè, insomma, come. Tuttavia, visto che c'è e non è una scelta nostra, penso, come lo stanno dicendo persone molto più autorevoli di me, no? Si dice sempre, no? Che dalle crisi, insomma, quantomeno si può rinascere. Adesso, senza caricare di troppi significati sta cosa, e non penso mica sia ben chiaro che sia arrivato perché c'è il destino, no? Cioè, secondo me casualmente è successo una mutazione, è successo qualcosa, non sono un virologo, leggo quello che leggiamo tutti, quindi casualmente è successo questa roba. Non scordiamoci che ad esempio il boom economico è venuto dopo la seconda guerra mondiale, no? Non siamo in una guerra, per certi versi qualcuno dice che lo è, però insomma comunque stare in casa non è, non dimentichiamocelo mai, non è stare all'interno, cioè era un pochino più complicato perché stava ad Auschwitz, ecco, che per chi vabbè sì andato. Sì, non c'è confronto, è chiaro, esatto, quindi no, perché nel senso, però sicuramente io credo che questo ci impone una pausa forzata, come ha detto qualcun altro, una pausa di cui forse avevamo bisogno, esatto, che ci porta in un qualche modo a riconsiderare un po' di priorità, a capire che ci sono delle robe che sono importanti ma che non, insomma, si possono fare ma che non sono fondamentali, a stare con le persone che magari in casa, in famiglia, così, no, si salutano tante volte, non si vedono neanche, e credo che ci porterà, cioè quando tutto sarà passato, io sono molto convinto che si guarderà questo momento come un momento di grande crisi, non rimpiangendolo perché non si può rimpiangere, ma come un momento dove forse, e qua ce lo dobbiamo augurare, qualche cosa potrà scattare. Io penso, certo, che ci sarà un impatto notevole in realtà su determinate robe, dall'organizzazione. Guarda, io poi dopo non voglio tenere a lunga, ma oggi ho fatto una conversazione con la presidente della mia cooperativa, un consulente via Skype, no? E io sono un grande fautore di queste cose, nel senso che penso che il cosiddetto telelavoro, smart working, non debba sostituire il lavoro, insomma, vis-à-vis, insomma, di persona, ma che possa integrarlo. E evidentemente ci voleva un virus per farlo capire agli italiani. In Italia questa cosa è sempre stata molto difficile, questo, ma come tante altre cose, insomma, anche più a livello di coesione, la riscoperta della sanità pubblica, no? Che sembrava, no, insomma, una roba anche, anche soltanto la riacquisizione della comunità, cioè proprio del concetto, anzi del valore della comunità stessa, no? Certo, che noi un po' abbiamo disperso negli anni, con soprattutto questi anni di politica molto semplicistica, no? di attenzione al messaggio di pancia, no? Cioè, sì, c'era anche questa. Vai. Anche il fatto di aver spazzato via, se mi permetti, il chiacchiericcio. Non è una sciocchezza questa. No, assolutamente, assolutamente. Poi, per carità, potendo scegliere, sceglierei di che non venire, cioè si sceglierebbe che non ci fosse questo. Sì, chiaro, sì. Però se dato che è venuto, prendiamo il meglio. Dato che è venuto, superata la fase di emergenza, perché prima o poi si supererà, speriamo prima che poi. Io penso fortemente che sarà una lezione molto importante. Spero che per una volta come paese si abbia un pochino più memoria delle robe, perché insomma tendiamo un po' a dimenticarci facilmente, ma come dire, stavolta secondo me prendiamo una bella paura. Esatto. E a volte, e parlo a titolo personale, non sto assolutamente pontificando, perché io, cioè, ciascuno di noi partecipa dello spirito del tempo, per cui non è che siamo su Marte, quindi stavolta abbiamo preso una bella paura, stiamo prendendo una bella paura, per cui cerchiamo di arrivare alla fine, però di non dimenticare tutto questo, insomma, e penso che insomma, certi comportamenti, non solo il lavarsi le mani, perché anche quello è importante, non solo quello, saranno il discorso della comunità che dicevi, è assolutamente vero. Penso proprio che potrà avere dei lasciti importanti in questo senso. Bene, Alessandro, io ti ringrazio, perché poi vedi, devo far incastrare un po', perché fare conversazioni che non finiscono mai, sono assolutamente inadeguato a fare interviste brevi, perché poi, Io sono inadeguato a dare risposte. No, però è comunque interessante, magari una volta poi torniamo a parlare magari di altri argomenti, perché comunque è bello parlare con persone, insomma, che sviluppano bene i propri concetti. Quindi io intanto ti ringrazio. Grazie a voi. E ci sentiamo alla prossima occasione. Grazie. Ciao. Ciao. cari amici di Runtime, scusate se abbiamo interrotto in maniera così brusca questa intervista di cui mancavano pochissimi minuti. Comunque, nella versione più estesa, scusa Davide, puoi fare silenzio per favore? Cioè, io mi sospendo a tutti comunque. No, aspettate, cioè, ma che è sta cosa? Aspettate, torno fuori onda. Ok ragazzi, io ritorno in onda, anche se i miei ospiti ancora non sono, sono offline, sono ancora sconnessi da questa conversazione, ma sono già nelle mie orecchie, io li sento che scalpitano, sono pronti per questa serata bellissima dedicata a uno degli argomenti peggiori. Fermate i gatti, cioè fate qualcosa, perché sennò è un problema, cioè, qualcuno lo disconnetta, perché sennò non riusciamo a fare. Levate gli ervino, come si dice a Roma. Questa è la più... allora, esatto, va bene. Allora, intanto io faccio entrare gli ospiti, perché questo, appunto, sapevo che sarebbe stata una diretta assolutamente difficile, sapevo che sarebbe stato complicato mettere tutti quanti insieme, ma ci proviamo assolutamente, perché questa è una serata nella quale noi vogliamo cercare di farvi compagnia, come abbiamo già detto in precedenza. Vedo che c'è già gente in chat, intanto inizio a salutare i nostri ospiti, inizio ovviamente dagli ospiti più ospiti, Michela. Dagli ospiti più importanti, coloro che praticamente faranno il remake, il terzo remake del film Io sono leggenda, perché ho scoperto che c'è già un originale del film Io sono leggenda, e faranno Io sono la famiglia leggenda, ovvero Marco Cipolla e Valeria Di Bernardo, che coraggiosissimamente hanno resistito alla tentazione di scappare da Milano più volte, perché magari hanno avuto più occasioni per scappare, e sono 3 settimane che sono chiusi in casa e rispettano le regole, perché c'è anche gente del centro e del sud. Vabbè, che rispetta le regole. Hai spoilerato tutto quello che devono di loro, quindi vabbè, ma noi vogliamo sapere, siccome noi cominciamo ad approcciare questa cosa di chiuderci in casa. Benvenuti prima di tutto. Ciao Marco, ciao ragazzi, benvenuti. So che siete vivi. Ci sentite? Sì. Dico, siete vivi ancora? Tutto bene? Ma io sto cominciando a dare mozzichi qua a mia moglie, sai, cominciano a scherzeggiare il tipo. No, tutto benissimo. Tutto sempre molto bene, no? Ma dice che c'è sta gente che praticamente ha cominciato a conoscere la propria famiglia durante questi giorni, insomma, tipo cos'è? Esatto. Bene, va bene, poi con voi insomma affronteremo un attimo questo tema, perché sono curioso di sapere insomma qual è la vostra esperienza e soprattutto qual è la vostra impressione in questo particolare momento. Ma c'è Alex Raccuglia anche. Buonasera a tutti quanti. Ciao Alex, grande Alex, il trascinatore di Runtime. Se non ci fosse lui in questo momento, Runtime sarebbe una molecola di niente. Vabbè. Sì, no, ha fatto Radio Coronavirus. Nelle prossime settimane praticamente ci sarà un Alex Raccuglia Day ogni giorno, e noi gli vogliamo bene per questo, perché comunque farà... Ma ci proveremo tutti, dai, ci proveremo un po' tutti. Sì, insomma. sì. Però non lo sapevo, ma sono contento. Lo prendo come il microfono in bocca, va bene, esatto. Così lo farò, sono pronto, quando il dovere chiama io rispondo, va bene. Qualcuno ti ha obbligato a fare questa cosa, magari torniamo con crossover, Alex, che dici? Tutta la con te qualsiasi cosa, un po' di trash music, un va po' bene, di trash, perfetto. Ci sta sempre, dai. Abbiamo addirittura colui che in questo momento secondo me è un po' la trasmissione ammiraglia di Runtime Radio, Walter Vannini. Mamma mia, oh, ammiraglio, niente ma di tu, che. Ma tu sei un uomo o sei una trasmissione? Perché questa è ancora... Io sono uno e Bino. E Bino. Perché la trasmissione mi percula su Twitter e non lo sopporto. Cioè, in che senso? Ma tu lo sai che c'è gente che ti cerca su Facebook e tu non rispondi mai a nessuno, poi? No, ce l'ho su Facebook, c'è la pagina. Ma l'hai lasciata tu la pagina? Ma la pagina qualcuno dovrà rispondere. Benissimo. Oh, Walter, comunque... Ho 36 punti di contatto, però vabbè. Comunque, cioè, vogliamo ricordare comunque a tutti gli ascoltatori la puntata, l'ultima puntata di Data Nightmare. Tra l'altro, tutte le puntate di Data Nightmare c'hanno il suo perché, perché c'hanno il suo perché. Ma l'ultima è veramente una gran signora puntata, quindi assolutamente complimenti. Mi inchino. No, è bella, veramente, no, è piaciuta. Siamo noi che ci inchiniamo a te. Bravo. Infatti. Ci inchiniamo con le ginocchia. Dai, era un rant insopportabile di 30 passa minuti. E la prossima, perché l'ultima puntata è quella che ho finito di fare questo pomeriggio. Quella che ci dà domani, anche presumibilmente, peggio. Insomma. Anche bene. Comunque, io comunque la puntata della scorsa settimana, cioè la parte degli ultimi 20 minuti che l'ho messi a loop continuo alla gente che passava, ascoltate. Comunque con noi ci abbiamo anche sai che non so come lo devo presentare, come lo chiamo, Lobby Frontali. Buonasera. Non so perché, non so come presentarti, perché sono sempre un po'. Colui che, presenti, poi, l'importante. Colui poi che corre nelle zone rosse a spada tratta. Hanno detto che in una notte romana correvi contro un autobus per cercare di tornare nella tua zona rossa. Quindi. Ma proprio di fronte all'autobus, forse sono davvero l'unico caso di terrone, lo posso dire perché sono terrone, che ha fatto l'esodo al contrario, inverso, esatto, al contrario. Gli altri scappavano, tu invece volevi andare, esatto. Sta diventando zona rossa, io sono in una zona verde, fammi tornare di corso in una zona rossa, e sono tornato e non esco più da allora. Ma tu sei diversamente terrone. Io sono diversamente punto, esatto. E l'ultimo ospite, se ci sente, perché insomma prima abbiamo avuto dei dubbi sul fatto che ci senta, Davide Gatti. E infatti non ci sente. Va bene. C'è anche il figlio della serva. Però. Infatti sì, ma c'è pure Carlo. Un attimo, mo ci arrivo. Ah, ok, hai detto l'ultimo. L'ultimo ospite. Carlo, scusa, ma lì. Carlo non è ospite, Carlo è il padrone di casa. Qua, buonasera a tutti. Oh, grande Davide Gatti, grande. Ci sembrava strano che tu non riuscissi a trovare una soluzione tecnica al problema che non ci sentivi, insomma. E che non... No, niente, non ci sente. Vabbè, ciao Davide. Gatti, stato... però fai silenzio. Okay. E allora, Carlo Sant'Agostino. No, ha risposto Davide, va bene. Vabbè, dai. Togliategli tutto. Staccategli internet. Ascolto dalla chat, ma sono in ritardissimo. Ok, vabbè. Allora, vabbè. Carlo, ciao Carlo. Carlo, io vi saluto dalla zona. Ciao a tutti, sono Carlo. Esatto. Sì. Tu poi in particolare proprio io sono nel centro mondiale dell'esplosione atomica. Perché sei tu, no? Sei tu poi la causa di tutto probabilmente, no? Esatto, sono io infestato io tutta l'Italia, io sono il come si dice, il paziente zero in realtà. Ero andato in maniera nascosta in Cina a prendere il virus, l'ho portato qua, l'ho modificato e l'ho diffuso. Bene, no, bene. Scherzo, comunque, ovviamente. Ma qua è, ormai io sono qui da 15 giorni in un'area super che non è più rossa, superato, è andato nell'infrarosso. È diventata nera. Diventata nera, non oso immaginare cosa, come sarò conciato tra una decina di giorni qua dentro, vedremo, dai. Bene, allora sì, io inizierei. Fatto un rant, non so, adesso che è in zona rossa anche lui, vedremo fra una settimana cosa tira fuori come puntata. Va bene, io inizierei proprio dai Cipollas. Adesso ci arriviamo a te, Carlo, ti interroghiamo, esatto, per bene. Esatto, infatti, perché allora noi abbiamo cercato di capire questa sera in che maniera possiamo raccontare le nostre esperienze, perché parlare del virus non ha senso, chiaramente, no? Fare un decalogo di tutti quelli che sono gli news, abbiamo detto, sa, c'è già Repubblica che ci angoscia abbastanza. No, tra l'altro, no? Vabbè, dobbiamo dire per dovere di cronaca che che tra poco parla Conte. Ha deciso di parlare proprio stasera per la terza volta, per entrare in competizione con Runtime, chiaramente. Già ho sentito gente che correva in giro, insomma, quindi il panico è totale, però stiamo cercando di resistere. Allora, è giunto il momento delle decisioni irrevocabili, secondo me inizierà così. Esatto, ragazzi, spezzeremo le reni ai nemici anche. Andiamo e partite. Com'era? Va bene, andiamoci e partite. Torniamo appunto dai Cipolla. Allora, i nostri carissimi amici vivono a Milano, ovviamente lavorano e crescono i loro figli a Milano, però loro non sono di Milano, come tantissime persone di Milano vengono insomma dal centro-sud, giusto? Sì. Quando ha iniziato, diciamo, a manifestarsi questo problema del fatto oddio diventa zona rossa, oddio che faccio, che non faccio, anche loro, come tantissime migliaia di persone, si sono posti il problema di tornare a casa, tanto se c'era una questione di inattività, quindi comunque stare fermi e stare segregati dentro casa, magari tornare verso la casa, magari verso le persone più vicine, verso i propri parenti, o rimanere, diciamo, sul posto e dare anche un segnale civico, insomma, di quello che so un po' rispetto delle regole. Allora, ragazzi, raccontate un attimo voi, tranquilli, a ruota libera, come è andata, quello che avete deciso e quanto vi è costato, non vi è costato, e se siete ancora convinti della scelta che avete fatto. Allora, guarda, parlo io, inizio io, perché avevo deciso la settimana di Carnevale insieme a Marco di scendere, perché ho detto vabbè, tanto noi avevamo le vacanze, perché a Milano si festeggia il Carnevale fino a sabato, quindi avevamo vari giorni di vacanza, e quindi martedì, cioè di 2 settimane fa, io sarei dovuta scendere con i bambini e Marco ci avrebbe poi raggiunto il fine settimana, se non che la domenica scoppia la bomba. Scoppia, praticamente la gente incomincia a scendere anche prima del tempo, incominciano tutti quanti giustamente a dire mi raccomando, non scendete, rimanete a casa, però in modo, cioè non era come adesso, era ancora abbastanza, diciamo, tranquillo, infatti i treni partivano, gli aerei partivano e tutto quanto. E io e Marco abbiamo fatto un attimo anche un po' un ragionamento, perché io sinceramente ho cominciato a dire ma dobbiamo scendere, poi magari abbiamo comunque i nostri genitori, abbiamo che non è che hanno 30 anni, insomma, non sono giovanissimi, e una serie di cose per cui abbiamo pensato che non lo so, cioè non possiamo essere sicuri al 100% che noi questo non l'avevamo contratto, cioè Milano è grande. Si gira, si fa, si va in giro, e anche in generale, insomma, non avevamo la sicurezza. C'è la movida anche, no? La movida, soprattutto quella notturna, dopo le 9:30. Esatto, come i bambini vanno a dormire tutti a fare la movida, insomma. Tutti, sì, certo, voglia, come no. Accendiamo il baby monitor e ci allontaniamo giusto il raggio del baby monitor, ovviamente. Che è di solito 13 metri, tipo. Esatto. E niente, quindi alla fine abbiamo fatto, insomma, abbiamo parlato, e anche mi ricordo, insomma, di aver pure parlato pure con Michela, non sappiamo che fare di qua di là, sì, e alla fine ho anche chiamato una cugina di Marco giù, che lavora all'ospedale di Terracina, dicendo ma se mi fanno il tampone scendo, se no no. E giustamente lei ha risposto rimanetevene a casa, che mi doveva dire, poverina. Certo. E quindi no, alla fine non, cioè proprio non ci sembrava veramente da irresponsabili, nonostante fosse proprio l'inizio. Sì. E quindi niente, ragazzi, siamo rimasti qua a Milano, e mano a mano, settimana dopo, comunque la situazione a Milano era molto più tranquilla, la gente comunque continuava a girare, tant'è che evidentemente sono aumentati i contagi, perché la gente ha continuato a fare un po' come gli pareva. In giro comunque la settimana scorsa la gente andava a lavorare, cioè birretta, aperitivo, hanno riaperto tutte le cose, le attività serali, cioè comunque settimana scorsa non mi sembrava di vivere una quarantena o una zona rossa, insomma, come vogliamo chiamarla. E invece evidentemente, insomma, hanno ragionato e hanno visto che adesso c'è il deserto. Questa settimana è iniziato il deserto. Che poi, passando un attimo a Carlo invece, poi dopo ritorno anche da voi, diciamo che una volta, appena è scoppiata la questione della zona rossa, io ho telefonato a Carlo e gli ho detto: Carlo, ma come va? Tutto bene? E lui mi ha detto: come fa? Andà tutto bene? Cioè, abbiamo il coronavirus. io ho pensato che ci avesse il coronavirus, cioè nel senso, e lui mi ha risposto tipo: tutti ce l'abbiamo il coronavirus. Eh sì. Tutti, nel senso, comunque è un problema di tutti, lo stiamo vedendo. Abbiamo iniziato al nord, qua da noi, ma come sappiamo ormai è un problema diffuso. Poi se ce l'abbiamo fatto, se lo dobbiamo fare, se non l'abbiamo fatto, questo chi lo sa. Può darsi che io l'abbia fatto e non me ne sono accorto, o quasi. Ho avuto tosse e raffreddore per 20 giorni, però che ne sai, dicono che in alcuni casi è asintomatico, non puoi saperlo. C'è da dire che mia moglie lavora in ospedale, quindi le probabilità che di cui sia passato, diciamo, sono elevate. Adesso mia moglie sta continuando ad andare avanti a lavorare in ospedale, perché lei ovviamente non la fermano, giustamente, e mentre io ormai sono a casa fermo, anche se fino all'altro ieri sono dovuto uscire per emergenze dovute a far funzionare le VPN di varie aziende, che ovviamente iniziavano il telelavoro, e chi non ce l'aveva la VPN, chi ce l'aveva e non l'aveva mai provata, chi ce l'aveva non ce l'aveva e non lo sapeva, anche perché esatto, poi pure che ce l'aveva e non lo sapeva, certo, ci sono anche questi casi. Diciamo che adesso da ieri praticamente sono in casa, e anche tutto ieri l'ho passato a casa, e anche oggi con i figli, ovviamente, perché anche loro sono chiusi in casa entrambi. Quindi da una parte c'ho mio figlio che è in quarta elementare, che ha le lezioni in streaming video dalla maestra tutti i giorni. vabbè già è qualcosa, invece di stare tutto il tempo su Fortnite, dice, insomma. Sì, anche se lui vorrebbe stare tutto il tempo su Fortnite. Vabbè, è normale. Invece mia figlia, che invece vorrebbe studiare, lei invece è facendo Brera è, ho scoperto che è l'università più arcaica dell'universo, pensate che ha ancora il libretto cartaceo, e non me l'aspettavo, ancora il libretto in carta, cioè dove scrivono i voti sul libretto. Si stanno organizzando per fare le lezioni online, ma questo succede da circa un mese, quindi non hanno ancora iniziato a fare nulla, e quindi ha fatto in tempo a fare un esame, ma è praticamente ferma, perché ovviamente non può, l'università è chiusa, tutto fermo, quindi arrivano email dicendo che partiranno a breve i corsi online, vedremo, insomma. Bene, invece tutto particolarmente fermo, diciamo. Invece Alex, che fa i suoi rapporti praticamente lavorare, fatturare, ma al di là di quello, no, quello è un altro. Però Alex, che fa i suoi rapporti quotidiani praticamente su Telegram, sul suo gruppo Tecnopills Riot, quindi cercatevelo, insomma, su Telegram, se volete essere se volete annoiare. No, ti prendo in giro, Alex. A me puoi farmi tutto, okay. No, è che sono troppo tecnici, quindi... E invece Alex ci fa questi suoi rapporti quotidiani, perché Alex è uno di quelli che fino a oggi non si è fermato praticamente. Alex: sì, in realtà ci siamo fermati oggi pomeriggio, ieri sera è stato l'ultimo giorno in ufficio. Oggi ho fatto delle riprese che erano state pianificate e mi sono attrezzato per il telelavoro, e tra l'altro domani mattina, adesso non è per fare pubblicità, ma avrete, esce una puntata proprio sul mio come gestirò il telelavoro da qui ai prossimi giorni, e perché per me il telelavoro è un po' complicato, perché non posso lavorare offline veramente, cioè nel senso in online, perché dato che devo lavorare con l'audio video non posso fare remote desktop, remote control, e devo copiarmi tutto in locale, insomma ho praticamente 500 GB di roba che mi serve. Però fino a ieri sì, sono andato ed è stata un'esperienza interessante, soprattutto l'ultima settimana in cui il telefono praticamente stava in silenzio. Noi in ufficio siamo effettivamente in sei, due di noi se ne sono stati a casa, una perché stava poco bene già di suo e allora a questo punto si è avuto messo in quarantena, un altro ragazzo ha una coinquilina la cui cliente è stata trovata positiva, per cui si è automesso in quarantena pure lui, per cui in ufficio eravamo veramente in quattro, in un ufficio abbastanza grande, e c'era veramente un silenzio irreale, ma lo stesso silenzio irreale che c'è per le strade. Anche aprire la finestra qui, che già siamo in campagna, però senti veramente quella differenza che non, cioè, di solito dici cazzo vado in montagna non sento niente, adesso qui apro la finestra di casa mia che vabbè non sono proprio in città, però sono comunque in mezzo alla pianura padana e non sento assolutamente niente. Ma anche andare al supermercato per me è stata una cosa un po' un'esperienza, perché andare al supermercato alle 19 di solito uno va, trova il mondo di gente che torna a casa dall'ufficio, fa casino eccetera eccetera, e invece trovare non tanto meno gente ma un forte silenzio, una sorta di silenzio di rispetto, come dire, cioè questa situazione è un po' come se tutti fossimo, non dico in lutto ma in difficoltà, ma tutti quanti, e questa cosa ha fatto sì che c'è una sorta di pensiero comune di stiamo tranquilli, siamo delle persone educate, gentili, rispettose, c'è questa cosa qui, e per cui c'è il supermercato in cui l'unica cosa che senti è la radio di sottofondo, che di solito le radio nei supermercati sono assolutamente inutili perché di solito c'è un casino, invece questa volta senti perfettamente ogni cosa anche se la radio è a volume basso, la filodiffusione, passatemi il termine del supermercato. Non so cosa mi state dicendo perché sono ovviamente ubriaco come sempre, per cui dovrei smettere di parlare. Smetto di parlare. Vabbè, vabbè. Invece faccio una domanda diversa e poi dopo passo anche a Michela e magari sì, anche lei si farà le sue domande, no? Una persona che si è trovato in zona rossa dall'oggi al domani, praticamente Walter Vannini, no? Che a un certo punto, cioè lui la mattina era verde, la sera era rosso, così. La mattina mi sono svegliato, devi cominciare così. Esatto, ma lui è contento se cominciamo così, quindi allora Walter. Allora, questa diciamo, allora, un po' ci ricorda, vabbè, perlomeno per quelli come me, no? Che hanno vissuto l'epoca di Moro, del terrorismo a Roma, quando c'era praticamente quel silenzio di notte, no? Cioè, dove non c'era il coprifuoco, ma comunque c'erano molti militari, c'era, come posso dire, la gente se ne stava a casa, no? A modo loro. Diciamo, però era quasi una scelta spontanea, nessuno aveva mai messo veramente in atto, come posso dire, dei protocolli di crisi particolari. Invece oggi noi ci troviamo, è vero, una crisi nuova, diversa, particolare, forse la più grande crisi della nostra generazione, no? Però abbiamo visto che è la prima volta che vengono attivate delle limitazioni così pesanti per la libertà personale, per la prima volta da quando c'è l'era repubblicana, no? Secondo te questa cosa la gente lo percepisce? Lascerà delle conseguenze? Cioè, la gente lo sta sentendo sta cosa che comunque non è una cazzata, cioè è una cosa seria, insomma. No, è una cosa molto seria, secondo me non è ancora stata presa con un livello di serietà adeguato per quello che è. La gente la sta prendendo, voglio dire, noi siamo italiani, noi prendiamo la qualsiasi all'italiana, quindi noi costruiamo intere città sulle falde di un vulcano attivo, ma chi ci ammazza noi, il coronavirus? Ma dai. Detto questo, non sta venendo presa con grandissima serietà, per fortuna, perché da un lato c'è una comunicazione a livello dei media che secondo me sarebbe da fucilazione alle spalle, per dirla con termini terrificante, equilibrati, perché non si può, cioè... Ho registrato oggi un pezzo in cui mi chiedevo perché il direttore responsabile del Corriere, che ha fatto uscire la bozza non ancora firmata dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cosa ci fa ancora senza manette? Cioè una persona che lì ha creato il panico totale, poi perché comunque... Ma io, come dire, ho ringraziato una lista di divinità che mantengo da molti anni quanto informatico. Ho ringraziato una lista di divinità che non ci sono stati veri problemi, non c'è scappato il morto, cioè quando la gente comincia a correre in stazione, cioè sono cazzi, non sono robe di cui ridere, capito? Io mi chiedo in quale modo un direttore responsabile di un giornale come il Corriere possa prendere una decisione del genere, e poi soprattutto come faccia a non succedere niente dopo che l'ha fatto, perché una cosa del genere non può andare, capito? Quindi per fortuna che non la prendiamo troppo seriamente, perché tanto siamo abituati a vivere in un paese di cialtroni. L'Italia va avanti nonostante la propria classe dirigente da sempre, da quando esiste praticamente. Detto Conte questo, ha annunciato la chiusura di tutte le attività commerciali in questo momento. Ah, vabbè, alla buon'ora. Ma di Lombardia o in generale? No, tutta Italia. Lo immaginavo io. Tutte le attività commerciali, quindi chi deve andare in ufficio va in ufficio lo stesso? Cioè, tipo io, no? Io non so né banca né poste, ma faccio tutt'altro, ma è un servizio. Vabbè, adesso cerchiamo un attimo. Allora, facciamo così. Guarda, adesso dopo, magari mentre che qualcuno parla, ci leggiamo bene, magari appena esce fuori con quel primo articoletto o cose del genere. Però nel frattempo cerchiamo un attimo di restare focalizzati un po' su quella che erano le nostre prime esperienze. Perché Francesco che è una persona che è abbastanza attenta, è una persona innanzitutto. Esatto, quella è abbastanza importante. Che è una persona e che è abbastanza attenta a determinati aspetti. Comunque, questa questione della limitazione delle libertà personali, comunque, cioè, nel senso, psicologicamente, secondo te ha un impatto adesso? Cioè, la gente si è resa conto di questa cosa? Abbastanza sì, è una cosa che già ci stiamo rendendo conto adesso, ma soprattutto leggevo proprio ultimamente, hanno fatto praticamente uno studio, una revisione di diversi studi che hanno fatto durante varie quarantene, sia durante la SARS che durante l'H1N1, più o meno hanno visto più davvero le conseguenze psicologiche, l'impatto psicologico che ha un periodo di quarantena sulle persone. E in genere più è lunga la quarantena, maggiori sono gli effetti negativi, e soprattutto perché già era affetto da qualcosa, qualche patologia. Si registrano effetti quali depressione, soprattutto disturbo post-traumatico da stress, ansia, e tutti questi fattori sono, diciamo, sono modulati da altre variabili, quali quanta informazione c'è in giro, cioè già l'essere sufficientemente informati è un qualcosa, anche da quanti si è in casa a fare la quarantena effettivamente, ma anche da quanto cibo c'è in casa, se c'è acqua corrente o meno. Cioè, ovviamente non siamo in situazioni così critiche, però comunque si è visto che questo va a peggiorare, cioè questi fattori qua vanno a peggiorare ulteriormente quello che già viene vissuto come una situazione critica, e poi gli ha degli effetti anche a distanza di mesi, cioè sono difficili da contenere, è meglio, cioè, prevenire già con una sufficiente informazione. Soprattutto hanno visto che informare la gente che la quarantena è per il benessere degli altri migliora molto, diciamo, leggerlo, farlo leggere più in chiave altruistica protegge parzialmente da questi effetti. Quindi una cosa non ho detto, io sono psicologo, ma non so, sono psicologo, e sia a livello di ordine a livello nazionale che a livello locale ci stanno fornendo sia delle linee guida tradotte dall'OMS locali, ma anche ci si sta impegnando per dei servizi di consulenza a distanza per dare supporto a queste persone. Questa è un'altra cosa che può facilitare il superamento di una cosa del genere, cioè che ci sia qualcuno a dare supporto, e non necessariamente uno psicologo, ma già che qualcuno riesce a gestire in modo più positivo, non farsi troppo prendere da fattori emozionali, già è un qualcosa. Sicuramente tutti sani non ne usciremo, però sicuramente qui in Italia siamo già più attrezzati rispetto a tutti sani non ne usciremo, è bellissimo. Siamo più attrezzati che stiamo già fuori dai. Grazie, sono sempre bellissime parole. Allora, io vorrei chiamare. Vai, Fra, finisci. No, ho finito, sto leggendo le cose che sta scrivendo nella chat privata. Ma non si fa così, non si parla di chat private al pubblico, al nostro pubblico, insomma, che poi. Che dopo, poi è curioso. Dopo tutti vogliono entrare. Mandare. mi volete mandare il link della chat in chat, perché non ho idea di cosa siamo pubblicati. Ah, aspetta, ok, sì. Okay. Allora, tra gente che non sa neanche dove siamo, per fortuna che stiamo tutti a casa, meno male. Allora, io vorrei interpellare di nuovo i Cipollas, come li chiamo io simpaticamente, i nostri eroi milanesi, perché loro hanno una peculiarità essenziale, che è quella che non è che sono rimasti da soli a casa, come me, io e mio marito stiamo a casa da soli ma sono rimasti chiusi in casa per 3 settimane con 2 bambini di 3 anni e di 6 anni. Quindi io voglio sapere, ma come cazzo l'avete fatto? O come avete gestito? E come farete? Perché non è finita, purtroppo, quindi... Allora, guarda, con Emma e Lorenzo non è facile, perché Emma ha un'esuberanza tale che rischia sempre di... Ha un leone in gabbia. Esatto, di autodistruggere e distruggere qualsiasi cosa. Noi però, quando siete venuti pure su a Milano, avete visto, noi ci coinvolgiamo con tante cose. Sì. I giorni li stiamo portando molto al parco, giochiamo con loro. Adesso hanno uno il gioco di carte e lo stanno praticamente consumando. Stiamo giocando a giochi da tavola. Se praticamente una giornata diventa più o meno l'equivalente di una settimana nella vita precedente, definiamola così. Precedente il coronavirus. E quindi ci barcamenniamo. Io sono fortunato perché ho Valeria a fianco che mi dà una mano grandissima, perché io, lavorando adesso i giorni dentro casa, loro sono attiratissimi dalla mia postazione. Emma ha sempre pronta la sedia, il seggiolone per mettersi vicino a me, che si mette, disegna, fa, e ripeto, ci barcaminiamo tra giochi da tavola, andate al parco, perché non c'è nessuno, che non c'è nessuno, ecco, e, ci siamo. Lavoro, e loro che ci girano intorno cercando di fare. Fra parentesi, ci stanno anche dando una mano, apparecchiano, ogni tanto passano lo Swiffer, l'aspirapolvere, sono particolari. Si chiama sfruttamento minorile questo, però. No, perché li pagano. Certo, sì. Gli diamo da mangiare. Comunque salutiamo anche Davide Gatti, che forse ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, grande Davide, grande. Non ci credo che c'è. Davide, tu adesso c'è stata la comunicazione di Conte, chiusi tutte le attività non essenziali, quindi negozi, ristoranti. E adesso tu col tuo negozio come fai? Ma allora, la nostra azienda è un'azienda di produzione, e quindi, per quello che ha detto Conte, le aziende di produzione devono continuare a vivere e ad andare avanti. Quindi ci ha detto meglio a noi, che almeno noi se ne stava a casa. A te tocca comunque lavorare. Ha detto che ancora lavorare, tranne che, dice lui, poi bisogna vedere quanto lo hanno recepito i nostri boss, tranne gli uffici o i reparti non essenziali dell'azienda, perché l'azienda, ok, è di produzione, è il grosso, è di gente che produce. Però quello che sta davanti al computer a fare la contabilità magari non è così essenziale in questo momento. Lo può fare pure da casa. Tranquillamente da casa. Da casa, certo. Invece tu, che sei un IT manager, sei indispensabile. Sono indispensabile nella misura in cui ci siano dei problemi gravi, ma se non sono gravi io riesco a fare tutto da casa in generale, E quindi tutto sommato, volendo, si può andare a casa, e in emergenza io parto. Vabbè, che tu sei una di quelle persone che io definisco piovere tecnologiche, cioè tu riesci ad accedere da qualsiasi cosa, da qualsiasi punto del mondo, quindi non è... Tranne che Skype, quando deve intervenire. Tranne con il microfono. Sul discorso qua di Skype stasera poi dopo vi darò spiegazioni successive. Ma non ci interessa. No, ma noi ti ringraziamo perché ci siamo divertiti tantissimo, insomma. C'avevamo anche degli ospiti che non ci conoscono. Scusa, hanno detto, ma che cialtroni sono questi? Ho fatto partire la chiamata e io tanto stavo provando, pensavo almeno un minuto di test, no, niente, subito live direi. No, non c'è tempo, vedi che non c'è, lo diceva Conte l'altra settimana, non c'è più tempo. Agatti, il milanese sei tu, ma mica noi. Sì, ma lui, lasciala dall'altra parte. Ma lui in realtà è di Parma, quindi esatto, si può è di Parma, ma cosa va? Allora, a questo punto faccio una bella domanda a Carlo Santagostino e Walter Vannini. Allora, ragazzi, noi abbiamo capito che il metodo cinese ha funzionato, no? Mo lasciate perdere che la Cina adesso... Sparare la gente in strada, mi no. sembra una figata. No, no, vabbè, ma lascia perdere sparare, non arriviamo a quel concetto, a quel quell'estremizzazione. Però diciamo che adesso i cinesi sono contenti perché dicono, vedete, vedete, il nostro modello ha funzionato, no? Però... E quindi abbiamo capito che bisogna contenere il più possibile per riuscire ad abbattere il livello di contagio, no? Però tutta questa escalation costante, oggi per esempio sbloccano 25 miliardi per mettere le pezze poi a quello che ovviamente saranno le conseguenze disastrose dell'economia, no? E poi subito dopo comunque fanno un ulteriore decreto che bloccano praticamente tutte le attività commerciali in Italia. C'è qualcosa che mi sfugge o c'è qualcosa che gli sfugge a loro? Carlo e Walter. Non so, parto io. Guarda, sì, sì. La cosa che io, per come la vedo io, poi voglio dire, sono un cittadino qualsiasi, questo continuo susseguirsi di misure è dovuto, io credo, semplicemente al fatto che le misure prese sono state troppo blande all'inizio, e siccome la curva di una di un'epidemia, di una diffusione di un virus è una esponenziale, e tu all'esponenziale gli devi correre dietro con cose sempre più ampie. Nicholas Taleb, che ne capisce qualcosina di matematica, dice che un governo deve andare in panico molto prima per non essere costretto ad andare in panico molto dopo, quando poi è pure inutile. Quindi finalmente qualche restrizione alle attività anche di tipo lavorativo, perché voglio dire, è inutile che teniamo a casa i ragazzi da scuola, si può fare tranquillamente, non lo fanno tutti in Europa, noi l'abbiamo fatto, va bene, però mi tieni a casa i ragazzi da scuola quando si sa che i ragazzi a questo coronavirus sono asintomatici, quindi vuol dire che stanno a contatto con gli adulti, col rischio di contagiarli, i ragazzi agli adulti, e poi gli adulti se ne vanno bellamente in giro a lavorare. Ora le interazioni ti interrompo dicendo che oggi andiamo in giro, il mondo è deserto tranne i vecchi. Cioè i vecchi stanno mia, tutti in giro, cioè, esigenza veramente io non la capisco. Che a un certo punto stavo per scendere dalla macchina e ma dovete stare a casa? Non avete capito dovete stare a casa? Non l'hanno capito, evidentemente non l'hanno capito. Io sono andato in banca perché dovevo andare a prendere dei soldi del conto di mio padre per tutta una serie di questioni. La banca era chiusa perché non c'era più contante, perché i vecchi erano andati a saccheggiare i conti correnti. Cioè, certo. Ragazzi, no. No, cioè nel senso. Ma anche di sabato mattina alle 11 a fare la spesa gli anziani. Mo io capisco che voi non ci avete nessuno, non vi aiuta nessuno. Ok, ma porca la miseria, ma perché dovete andarci alle 11 di sabato che ci avete tutta la settimana per andarci? Comunque, Carlo, tu che c'hai l'occhio scientifico, no? Sei quello un po' più analitico, diciamo così, no? Cioè, nel senso, lo è tantissimo anche Walter. Ma è un limite della nostra democrazia questo, delle democrazie in generale, cioè il fatto che... Ma allora, qua il problema è che le incognite sono troppe, non mi esprimo più che altro perché attualmente, cioè, noi abbiamo visto quello che stiamo facendo noi in Italia, cosa è successo in Italia, ma non mi capacito di quello che stanno facendo all'estero, quindi o mancano effettivamente degli elementi, ma se dovessimo basarci su quello che sappiamo, su quello che conosciamo, vuol dire che il resto del mondo sarà conciato, soprattutto sto pensando agli Stati Uniti, tra un mesetto sarà conciato molto peggio di noi. Sì, ma certo, fai due settimane. Sì, ecco, sì, se no manca qualcosa qua, ragazzi, cioè nel esatto. senso o è un problema nostro, cioè nel senso è un virus autoctono, cioè nel senso e non è, e qui, o c'è qualcosa che non funziona, no, in questa storia. C'è qual quadra che non cosa, insomma, se parlando con la mia amica in Irlanda, che c'ha comunque la famiglia qui in Italia, ma lei vive lì da 14 anni, e mi chiede: ma è veramente così come sembra? E io gli ho detto sì, forse anche peggio, e lei mi fa: beh, probabilmente noi ci troveremo alle stesse condizioni fra qualche mese, e non potremo fare niente, quindi aspettiamoci, insomma, il caos. Boh, Alex, sì. tu che dici? In che senso, che cioè, dico nel io? Senso, qual è la tua opinione su questa escalation così, così improvvisa rispetto magari, ecco, questa curva un po' lenta, no, che ci abbiamo messo un po' di tempo. Allora, io posso essere, vado controcorrente e devo dire che secondo me a livello comunicativo hanno fatto un grande lavoro, perché nel senso, se avessero fatto da un giorno all'altro le misure che stanno attuando oggi, sarebbe successo probabilmente il insomma l'anarchia e la gente, ah, che okay, andava in giro di strada a sparare. Cioè tu così dici ce l'hanno appoggiato giorno... pian piano, cioè ce l'hanno con cioè, delicatezza. L'hanno appoggiato pian piano e hanno fatto anche bene, ripeto, devo dire che forse sì, siamo forse qua ad affrontare una cosa che nessuno nel mondo aveva affrontato prima, cioè nel senso, sì, però nel senso non a questo livello, a questa scala, in Italia non è mai successo, e nonostante gli anziani che hanno fatto grande fatica a rinunciare a certe cose, nonostante gli adolescenti che fanno fatica per certi versi, e infatti grazie sono queste persone, sono questi a cui fondamentalmente gli è stato martellato, detto, vabbè, vaffanculo, per colpa anche vostra dobbiamo bloccare tutto, però nonostante questo lo stiamo affrontando, e lo stiamo affrontando secondo me anche con meno paura di, e meno isterismi di quanto mi sarei aspettato precedentemente. Vero, perché vero, magicamente sono scomparsi i Novax, nel senso ci sono due o tre cagate, ma sono due o tre cagate, sono scomparsi tra... no, cioè, allora scomparsi non so scomparsi, sì, però un po', sì, però un po', ma però nel senso adesso se uno dice no ma niente vaccini, li sparano e fanno anche bene, cioè li facevano bene anche prima, solo che prima non li sparavano, adesso fondamentalmente ti linciano, e secondo me è stata una cosa giusta, ripeto, questa cosa qua ci ha dato una sorta di coscienza civile, non ce l'ha ancora data al 100%, ci sta facendo vivere come nei peggiori film catastrofisti. Sì, è terribile che ci sia un sacco di gente che stia morendo, è terribile che gli ospedali siano sovraffollati, che siano quasi vicini al collasso, però questa cosa qui secondo me ci sta dando, a me, io devo dire che vedo questo stato, questa nazione, ho detto minchia, ma mi immaginavo veramente peggio, perché ok, hanno preso d'assalto i treni per tornare, sì, qualche migliaio di persone su 12 milioni che abitano in Lombardia, 10 milioni per dire, sì, vabbè, non lo dovevano fare comunque. A Milano ci sono 2 milioni di persone che ci abitano e altre 4 e mezzo che arrivano tutti i giorni. Rispetto al totale sono stati anche pochi per certi versi. Gli assalti ai supermercati, vabbè, ma sono stati il primo giorno, poi la gente ha capito, ha detto vabbè, non c'è stato più. Vai all'Esselunga, per dire l'Esselunga perché è quello dove vado spesso io, e vabbè, sì, magari c'è un minimo di shortage di qualcosina, però per il resto secondo me la stiamo affrontando in maniera molto buona. E ok, possono dire tutto quello che vogliono dal punto di vista della scuola non è preparata, e qui Walter sicuramente ne sa meglio di me, però la grande qualità del popolo italiano è che fondamentalmente quando noi siamo messi alle strette ci inventiamo qualcosa e aggiriamo tutte le limitazioni tecnologiche. Sarà un casino? Sì, sarà un casino, sì, ma dato che è un casino di tutti quanti, fondamentalmente non è che c'è chi ha più soldi avvantaggiato, chi abita da qualche parte più avvantaggiato. Saremo tutti, prenderemo un pochettino una batosta tutti quanti, sì, e ci come abbiamo fatto sempre, dopo la guerra mondiale, dopo tutte cose, ci tireremo sulle maniche e andremo avanti. Io devo dire che straordinariamente Non mi sembra di sentir parlare me stesso, sono fottutamente finito. Stranamente. Allora guarda, vi faccio una domanda. Infatti, sì, cioè, veramente Alex... aspetta, faccio un attimo una domanda, così mi rispondete tutti quanti a giro, compresa Michela, perché voglio sentire anche il suo parere. Partendo da Cipolla, secondo voi questa è comunque una grande occasione per ritrovare un minimo di senso civico e di solidarietà? Un minimo di senso civico e di solidarietà. Ma io devo dire che qua a Milano si sono attivate veramente parecchie cose. E partendo anche, per esempio, l'Esselunga, come prima diceva anche Alex, fa la consegna a casa gratuita, si paga in teoria 7,90 a meno che non sei anziano, e invece adesso la fa gratuita, però con la cosa che se fai diciamo la spesa te la consegnano tra una settimana, perché ovviamente non hanno logisticamente non hanno le capacità, poverini, si sono ritrovati 2000 persone in più a fare le consegne eccetera. Comunque niente, noi personalmente, cioè, penso di sì, noi è facile vedere e sentire persone e altre famiglie che chiedono alle persone anziane se vogliono che si faccia la spesa, che si vada a prendere determinate cose, proprio per evitare che non che loro vadano in giro, però essendo i più vulnerabili si tende ad essere sì più solidali, più facile vedere sorrisi, anche se c'è tutta questa alone e atmosfera surreale. Ripeto, noi cerchiamo di far passare sempre il sorriso alle altre persone, anche ai nostri bambini, perché solo col sorriso e con lo stare insieme si possono superare. A distanza, stare a insieme distanza, a un metro e mezzo, certo. Abbracciamoci a distanza. Davide, sì, no, secondo te mezzo, 2 metri dalla gente siamo. Sicuramente sì, come anche diceva Alex prima, come dicevano tutti, che sembra che adesso questa situazione ci stia procurando, come dire, il senso civico che chissà dove era andato a finire. Il giorno prima bestemmiavamo a destra e a sinistra quello che attraversava la strada mentre tu passavi in macchina, cioè il contrario, e adesso invece tutti gentili e bravi. Io comunque ho l'impressione che non appena questa situazione ritornerà alla normalità ritorniamo i soliti stronzi come sempre, se dico parole gentili, ecco. Secondo mio modesto parere, conoscendo gli italiani e conoscendo me stesso soprattutto. Quindi adesso che la situazione ci ha dato l'occasione di presentare il nostro lato positivo, ma per poi ripresentare subito quello non negativo, insomma, quello standard, non appena la situazione ritornerà alla normalità. Secondo me finirà così, vedrete. Non so cosa ne pensate, va. Bene, bene. Allora, Carlo, invece, secondo te è un'occasione questa? Non voluta, ma allora, non voluta, non è che la cercavamo. Sì. Allora, sai che spesso io dico che in realtà questo lo racconto molte volte quando parlo di storia in generale, dico che l'essere umano cambia difficilmente, quindi è una buona occasione. In realtà si assiste sempre, adesso sarò didascalico purtroppo, ma in periodi di brutti, la guerra per esempio, ma anche periodi di crisi, di carestie eccetera, in passato si assiste a ovviamente l'essere umano tende a quella che è la socialità, quindi anche alla condivisione del bene in comune eccetera, cosa che invece non succede quando aumenta, quando c'è troppo la ripresa. Benessere, insomma. Esatto, è normale adesso, sì. Poi sì, ovviamente forse io la vedo sempre fisiologico, la vedo un po' dal punto di vista storico, quindi banalizzo magari quello che invece è una cosa bella da vivere, insomma, in questo momento, ecco. Detto questo, quindi sì, sta succedendo, si vede, la gente si sta dando una mano, si aumenta la solidarietà. Anche qua a Brescia hanno fatto delle donazioni incredibili, stanno costruendo, non dico un ospedale in 10 giorni come in Cina, ma quasi, nel senso che hanno approvato oggi il decreto per trasformare la fiera di Brescia in un ospedale nuovo, e conoscendo i bresciani lo faranno in giro di 15 giorni, diventerà un ospedale attrezzato. Mo 15 giorni, insomma. Vabbè, no, 15 giorni ci hanno messo i cinesi, loro sono de Brescia, ci mettono 20. 25, dai. Esatto, diciamo che lavorativa. So cosa stanno facendo. Ho visto le notizie del telegiornale locale, stanno già iniziando, hanno già provato, disposto, preparato, stanno già approntando in quella che era la fiera di Brescia. Abbiamo un bresciano tra gli ascoltatori che salutiamo, scusa Carlo, però salutiamo Paolo, quindi tra noi. E comunque, giusto per concludere brevemente, sono d'accordo anche con quello che dice Alex riguardo al fatto che comunque alla fine non è che è stata gestita, tutto può essere fatto meglio, però sicuramente non è stata gestita male, insomma, la crisi in questo momento in Italia. Ritorno a quello che dicevo prima, cioè il problema non è l'Italia adesso, mi preoccupa il mondo, cioè mi preoccupa sulla base di quello che si legge, di quello che si sa, perché ritorno a dire quello che dicevo prima: se effettivamente nel resto del mondo non succede un disastro, allora vuol dire che c'è qualcosa che non ho capito, insomma. Certo, c'è qualcosa che ci è sfuggito, chiaro. Allora, Francesco, Walter e poi Michela, su questo punto qui. Allora, io più che occasione la vedo quasi come davvero un test, spero non della Kobayashi Maru, ma lo vedo come un test, cioè, ma la riporto più sul neutrale che come occasione, perché occasione già è un qualcosa, forse una connotazione quasi positiva, anche se in realtà mi aggancio anche a quello che ha detto Carlo. Alla fine siamo esseri umani, uno dei meccanismi adattivi, cioè che proprio quasi innati, è quello della socialità, cioè si sopravvive quando si è di più in branco, soprattutto quando le risorse sono scarse, ci si collabora, è una cosa che viene quasi in automatico. Io vedo anche qui, io da quando sono tornato da Roma, da quella mattina a Roma, a parte che la mattina infatti in mezzo alla strada c'erano solo vecchi, però vabbè, sono uscito solo ieri a fare la spesa, non sono uscito ancora, non ho visto ancora con i miei occhi, però comunque sento dire cose eccetera eccetera, e qui vedo che comunque si è molto attivi, sia a parte che si hanno fatto delle raccolte fondi che hanno raggiunto su GoFundMe, altre piattaforme che hanno raggiunto subito praticamente la soglia di finanziamento, sia per acquistare nuove risorse qui all'ospedale, oppure estendere i reparti eccetera eccetera, ma ci sono attivate anche in modo molto spontaneo, sia da parte di Onlus che da altri enti, per esempio banalmente le fiabe telefoniche / su Skype, perché comunque non ci dimentichiamo che è difficile per noi gestire, mi attacco anche a quello che ho detto prima, gestire periodi di quarantena, chiamiamolo così, questo periodo è difficile per noi adulti, figuriamoci per bambini che non, certo, hanno praticamente un sistema cognitivo emotivo attrezzato come noi adulti, oppure a una cosa che mi è molto vicina anche dal punto di vista lavorativo, anche gente con disabilità, anche per loro, anche solo riuscire a far capire che hanno le loro routine molto rigide, molte abitudini, è difficile far capire un cambiamento repentino di routine, e così deve essere e basta. Quindi vedo anche attivare per esempio la distribuzione di farmaci porta a porta, comunque da questo punto di vista, cioè, a sopravvivere sopravviveremo e come sopravviveremo poi noi italiani, vabbè, storicamente è un pochino diciamo un luogo comune il fatto che comunque ci sappiamo molto riadattare e eccetera eccetera. Leggevo qui quei geni di Lercio a proposito: distanza di sicurezza per il coronavirus, in vendita a Napoli metri lunghi 70 centimetri. Vabbè, è questo il luogo comune che però farete, dai, però. Sì, poi dico solo un aneddoto, quindi 2-3 giorni che sto a casa, di solito partivo la mattina, tornavo direttamente al tramonto, quindi ho avuto occasione più o meno di stare anche affacciato un pochino di più al terrazzo, e qui è un pochino come tipo la finestra sul cortile, che vedi un pochino la routine di altra gente che è costretta a casa, in particolare... Mi sono fissato tra virgolette su un vecchietto di fronte che non ho mai visto, che vedi che, cioè, sta sul terrazzo tipo davvero un leone in gabbia, e vede che praticamente gironzola, poi si fissa su un fatto, cioè praticamente poi rientra, poi lo vedi che spunta da una finestra, poi vedi che sta fermo, cioè praticamente non vede un cantiere, ma fanculo, me lo immagino io il cantiere, vedi che a volte davvero si fissa su un punto come un gatto e sta fermo là, si automarella, esatto, sì, e io faccio l'umarella dell'umarella, è un, esatto, l'umarella inception praticamente, tu sei l'umarella dell'umarella, è bellissimo l'umarella inception. Vabbè, d'altronde è un po' un domiciliari per poi, tutti questa storia, altri 30 secondi tra i vari. Io comunque sono relativamente fermo dal punto di vista lavorativo, oggi ho fatto comunque una riunione con dei colleghi, tra cui Alessandro, con cui abbiamo sentito prima l'intervista, che è il vicepresidente della cooperativa di cui sono socio. Praticamente tutti, come ha detto lui, 4/5 dei progetti, delle cose sono ferme, tra cui un progetto che va a partire questo proprio la settimana scorsa, e di potenziamento cognitivo per gli anziani. Quindi sono stato un mese a fare valutazione, eccetera, eccetera. Quasi quasi mi viene da dire a lui a distanza: ma scusa, vuoi fare una valutazione? Ripeti queste parole dopo di me: stenda, tamburo, cintura. Però vabbè, ti ha preso un attimo, so. Vabbè, ma anche tu impazzirai prima o poi. Walter, allora è un'occasione questa? Ma guarda, finché tu che sei l'immagine dell'ottimismo, no? Nel senso dell'ottimismo e della bonomia, non dimentichiamo. Esatto, non esatto. Ma guarda, ti direi scusa Walter, io ti appoggio con i tablet, quindi se c'è qualcuno a cui dobbiamo menare vengo anch'io, quindi sono d'accordissimo. Ma li meniamo con i tablet, però con i tablet. Certamente. Con i bambini risultati. Con i tablet in mano. Esatto, ma questa è una vecchia storia, però vabbè. Vai Walter, l'avete detto voi, io l'ho solo pensato. Guarda, tutto ovviamente è un'opportunità finché riesci ad andare ancora in giro a raccontarla. Io vedo una cosa abbastanza interessante. Vedo che è forse la prima volta dai tempi dell'edonismo reganiano che ci accorgiamo che non possiamo fare qualcosa. E questo secondo me è estremamente positivo dal punto di vista sociale, dal punto di vista proprio della comunità, perché improvvisamente tu vedi tutte queste persone che ma non posso andare al bar, ma non posso andare al cinema, cioè secondo me collettivamente questo sarà un grosso momento di crescita. L'effetto naturalmente sarà anche quello che il problema è che se le persone sono a casa, a parte l'ovvio picco di natalità che ci sarà verso gennaio febbraio 2021, o dei divorzi perché non è detto o anche dei divorzi sicuramente, però i tempi dei divorzi sono più lunghi Ah, giusto, è vero. Sì, c'è quello. C'è da dire che la gente obbligata a starsene a casa, dato che nel giro di una settimana di binge watching ti bruci tutto quello che c'è da vedere su Netflix, comincerà a pensare, e secondo me la prima cosa di cui si accorgerà è il livello catastrofico della nostra classe dirigente, che voglio dire ha sbagliato quasi tutto a livello proprio di dirigenza. Quello di bene che è stato fatto, e non è poco, è venuto dal livello tecnico, ma il livello decisionale ha fatto cose inenarrabili, dichiarazioni contrastanti, dice una roba, poi dopo due ore ne dice un'altra, poi cambia idea, poi è chiuso ma no, poi è aperto. Noi in questa città avevamo un sindaco che non più tardi di una settimana fa, adesso naturalmente nessuno lo dice più, aveva fatto stampare degli adesivi basta panico, perché secondo lui già chiudere fino al 3 marzo era una ferita terribile per l'economia locale, insomma non si può bloccare così una città, e quindi Pesaro riparte lunedì 3 marzo. Poi naturalmente la sera di domenica 2 gli è arrivato un pesce paduro di dimensioni apocalittiche e la cosa è andata, come dire, in dimenticatoio in modo automatico. Però voglio dire, non si può vedere una cosa come il sindaco che litiga col presidente di regione perché secondo vuole chiudere ma il primo vuole tenere aperto, ma poi tutti e due vengono cazziati dal presidente del consiglio. Ma che cavolo di ragionamento è? Cioè, siamo uno stato oppure no? Non a caso nel decreto del presidente del consiglio ci sta scritto che l'applicazione e la sorveglianza sull'applicazione di queste misure a chi è in mano? Ai prefetti. Con buona pace di tutta la deregulation e di tutta la federalizzazione di cui abbiamo cianciato invano in questi 20 anni, se vuoi vedere una cosa fatta a livello nazionale la dai in mano ai prefetti, che sono un'emanazione diretta del presidente del Parlamento, del governo, ok? Perché i sindaci cosa fanno? I sindaci fanno casino sostanzialmente, e allora è inutile che esistano come livello decisionale autonomo in questo genere di casi, ok? Vanno bene fin quando tutto va bene, come un sacco di cose vanno bene fin quando tutto va bene. Quando ci sono dei problemi seri occorre avere un modo di stare allineati e coperti. Quindi anche dopo tanto tempo, dopo tanti decenni di pace, cioè di conflitti tutto sommato irrisori, eccetera, anche avere, come dire, una ragion d'essere dell'autorità, perché tu ricordavi giustamente gli anni 70, ecco, in quel caso non c'era una bella percezione dell'autorità neanche quando facevo le cose giuste, ok? Ecco, invece in questo caso c'è una percezione del senso che ha avere una struttura di tipo statale. Lo Stato serve perché nei momenti in cui tutte le previsioni di normalità vanno a carta ai 48, ci deve essere qualcuno che, come dire, dà la direzione, batte il tempo. E questo tutto sommato è una cosa in sé positiva. Poi ovviamente la popolazione reagisce come tutte le popolazioni, reagisce a quello che gli dici e al modo in cui li tratti. A noi ci stanno trattando ancora un po' come bambini e quindi è normale che reagiamo un po' come bambini. Non troppo, mi sarei aspettato di peggio dagli italiani. Sì, sì, dai. Facendo molta pena, tutto sommato. Dai, infatti è Michela. Secondo me gestita, io non saprei interpretare, cioè non saprei dire adesso se la situazione è stata veramente gestita bene oppure no, perché forse il mio carattere diciamo che tu sei un po' in apprensione, sì. In questo periodo. No, però mette la confusione. La domanda però originale era se questa è comunque un'occasione. Perché noi ricordiamoci sempre, tu sei, lo sai, cioè noi abbiamo fatto morire la gente in mare e poi dopo chiudiamo le frontiere e poi dall'estero ti arrivano i cinesi che ti dicono vi regalamo 150 respiratori, cioè nel senso, allora noi c'è stato un momento in cui avevamo deciso che certe cose non dovevano esistere, che noi dovevamo chiudere, che noi eravamo noi e l'arte erano gli altri. Poi ci siamo trovati di fronte a una crisi che in qualche maniera ci deve far ragionare, perché questa è una crisi più grande dove è dimostrato che abbiamo bisogno di una comunità più grande, che comunque si dà una mano, che ci si scambia, quindi può essere, no? E quindi per accottari sono stati rilevati come tali da questa crisi, perché questo è proprio quello che è successo. Ma infatti secondo me sono quelli che usciranno peggio da questa situazione. Però dobbiamo ricordare finita la crisi. Esatto, vediamo quello che succede. Però al di là di questo, no, dico io proprio socialmente, io dico proprio civicamente, le persone, mica, che impressione... Secondo te questo è un momento di riflessione? Allora, nel mio piccolo, io facendo un lavoro che comunque è dedicato al pubblico, no? Perché io poi in questo momento sto avendo un grosso problema, che è quello di far capire al pubblico che non ci possiamo incontrare, non possiamo stare insieme, ma dobbiamo in qualche modo risolvere la situazione dei pagamenti in altro modo. Che quindi... esiste internet che ti fa capire la gente. Sì, ma non è facile, insomma. Ma la buona percentuale della nostra popolazione non è ancora pronta a questo, seppure insomma ci stiamo arrivando, molti si attrezzano, anche persone comunque di età matura, e quindi assolutamente, però è difficile e devo dire che comunque loro mi stanno, cioè quello che dicevo ieri anche a una collega, comunque in qualche modo le persone stanno reagendo in modo positivo, tra virgolette, perché comunque c'è paura, c'è panico, c'è diffidenza tra stare vicino, però anche il rispetto delle regole, la facilità con cui hanno accettato di restare fuori dalla porta mentre dentro c'è un'altra persona, o piccole cose comunque. Vabbè, c'è anche la paura, pensare... però, c'è il deterrente della paura. Non solo, perché poi vabbè, noi abbiamo poi la romanità, per cui comunque c'è sempre quello che poi scherza sulla situazione, eccetera. C'è la signora polizia, la tirano dalla finestra. Però comunque aiuta, nel senso che aiuta a guardarsi in faccia di ce la possiamo fare, e quindi insieme, piano piano, abbiamo pazienza, invece di metterci 10 minuti, signora se sbrighi che devo andare via, ce ne mettiamo 20 perché dobbiamo sterilizzare tutto, però va bene lo stesso, e apprezzo anche questo. E quindi secondo me noi dal punto di vista di comunità ce la possiamo fare in qualche modo, se non contiamo i vecchi che giorno stanno tutto il giorno in giro a cercare di morire, però vabbè, però secondo me ce la possiamo assolutamente fare e sono molto speranzosa, e soprattutto La cosa che spero veramente è che questa esperienza sia... voglio spezzare una lancia a favore dei ragazzi, perché comunque ne abbiamo visti tanti di cialtroni che andavano in giro nella movida, eccetera, eccetera. Io ho un figlio di 20 anni e che oggi lui... a Taglia del Prato, ragazzi, cioè si rompono talmente tanto i coglioni che alla fine diventano persone civili, è incredibile. È lui la nostra preoccupazione principale, perché comunque c'è comunque la paura per il futuro, c'è un contratto appena iniziato, un contratto di lavoro appena iniziato, il ristorante ha totalmente chiuso, certo. Perché certo. Tutti i matrimoni, tutti i battesimi, tutte le comunioni, tutte le feste saranno annullate da qui fino a destinare, e quindi i locali chiudono e gli ultimi a cui si pensa sono i ragazzi. Quindi c'è una realtà dei ragazzi che è andata comunque a correre da mamma, che io non riesco proprio a ragionare, cioè sta cosa mi fa veramente male, nel senso di pensare a giovani che non riescono a pensare neanche minimamente a quello che stanno facendo, ma devono correre da mamma perché mamma prepara il sugo, perché sennò non posso stare da sola dentro casa per più di un giorno. E comunque ma tuo figlio non fa testo, perché tuo figlio il sugo se lo prepara da sé, perché è cuoco. Anzi, se fosse venuto direttamente l'avremmo accolto volentieri. Sentite, ma secondo voi, no, al di là dei cipolla, che fra 9 mesi chiaramente ci regaleranno insomma delle sorprese, anche no, scusi. Vabbè, però scusi, tutte le debite precauzioni. Vabbè, però scusa, che in qualche modo il tempo bisogna passarlo, cioè non è che guarda, abbiamo Netflix, giochi di ruolo online, esatto. Giochi di ruolo, no, no, ma lui allora io scrive il secondo romanzo, bravo. Allora io una volta con Marco, c'ho avuto un momento dell'lapsus e dell'ictus anche un po'. Con Marco poi ci farò una diretta a parte, parleremo di altre cose, insomma. Sì, soprattutto della sua attività collaterale anche... artistica e anche creativa, diciamo così. Però Davide, sì. Questa è anche l'occasione per riscoprire, che ne so, hobby, interessi, sì, comuni, cose da costruire. Ti ricordi quella cosa che avevi lasciato in garage che non hai finito di costruire? Non so, tu non ci crederai, ma è proprio uscito martedì, cioè oggi, l'episodio che si intitola Modellismo, del mio podcast, nel quale appunto racconto di quello che sono state delle mie passioni che poi si sono fermate in attesa di tempi migliori, ed ecco che potrebbero presentarsi tempi migliori famosi, se ci fosse davvero un momento in cui poter fare una pausa e avere un obiettivo davanti e dire cioè, potrei avere 15 giorni liberi, bene, allora mi organizzo, e potrebbe anche saltare fuori. Di sicuro molti rispolverano cose che, come quel vecchietto che non sapeva dove andare, guarda la finestra, guarda qui di là, se avesse avuto in box un modellino di un'astronave di Star Trek, un Enterprise, si sarebbe messo lì a costruirla magari, chi lo sa, che ne sappiamo. No, ma il problema è che Davide Gatti l'astronave, l'Enterprise, la costruisce, ma poi la fa pure volare, no? Perché non è previsto dal modellino, ma lui la fa volare, cazzo, cioè, perché quantomeno potrebbe fare qualcosa di interessante, magari volare no, ma quando la vedi dici cacchio, potrebbe essere interessante. Sì. Alex, invece tu come raccoglierai questo tempo che un po' si dilaterà per te, che sei abituato a saturarlo il tempo, no? Allora, oggi ho... A parte fare podcast, chiaramente. Perché allora, porta quello. Oggi ho pulito casa, ho montato il podcast, tra l'altro che ha a che vedere con Carlo Sant'Agostino, perché parla di Francia Corta. Veramente domani ho da un po' di robe da fare, ma sono abbastanza ben schedulato, per cui è come se facessi un part time, cioè 4 ore di lavoro d'ufficio, diciamo, e il resto pulisco casa, assolutamente, che è una cosa che mi mette di buon umore. Non ho capito se queste direttive mi consentono o non mi consentono di andare a fare una corsa in bici, probabilmente no, e in tal caso se potessi farlo andrei a fare un giro anche in bici, altrimenti stavo a casa. In teoria le attività sportive le puoi fare da solo, però, cioè sempre non assembramento. Allora, non ho capito però bene, questo era vero fino, era vero fino a un'ora fa. Esatto, esatto. So. Vabbè, mo ci documenteremo. Ma lo capirò. Ho da finire la signora Maisel e ho un sacco di robe interessanti, siccome non riesco a finire Netflix, anche volendo. E comunque c'ho tutta... Ma è Netflix Prime, che finirà te però. Mrs. Adesso. Maisel vince sempre. Bene, invece... Comunque... Vai. Ma quanto è bella lei e bellissima. Quanto è bella la serie, bellissima, ma proprio una cosa, secondo me è più bella di lei soltanto c'è Fleabag. Sono d'accordo, sono molto d'accordo. Tra l'altro sono serie che consigliamo, allora un giorno questi fate una bella live, parlate di queste serie che non guarda nessuno tranne voi e non avete così, capito poi. Un cazzo, hanno vinto perché non capite niente. Ma i premi, sempre le cose che vincono i premi sono allora, cose, allora ricordati che sta per uscire al cinema, ora non più grazie a Dio perché i cinema l'hanno chiusi, guarda caso i cinema sono falliti ormai, non esistono un grandissimo colossal sci-fi tutto italiano che ha vinto ben 27 premi, ragazzi. Ma 27 premi de che non si sa. Strega Baghega 1937, okay. Premio del Festival della Porchetta da Riccia 2020, che è un signor premio. Oh, cioè, voglio dire, alla fine se io ti dico io scrivo 27 premi, mica ti dico che ho vinto il Leone d'Oro, capito? Premio invece... della scorreggia di sopra di Bagnoli in piano 2020. Anche. Invece Carlo Santacostino, che è connesso anche quando c'ha l'occhio chiuso, perché tu se Carlo Santacostino lo vedi su una sedia col mento abbassato verso il petto, l'occhio chiuso, tu dici sta a dormire, no, lui sta a pensare, sta pensando come dirti no, hai sbagliato, no, hai sbagliato, esatto. Carlo invece tu come dilaterai il tuo tempo sempre, comunque sempre, hai sempre sbagliato sempre. Come dedicherai il tuo tempo che in qualche maniera un po', cioè nel senso come devi staccare, tempo? Cioè, quale tempo? Non c'è più tempo, signor Freeman. Non c'è più tempo. No, scherzo. Allora, stare a casa per me vuol dire lavorare meno, riuscire a fare meno cose di quando vado a lavorare, tra virgolette, perché con due figli in casa, di cui uno lo chiamo il distruggitore, prende il 90% del tempo libero, avendo la moglie che va anche a lavorare, lo lascia qua, a parte seguirlo per i compiti e inseguirlo. Avere un figlio che ha 9 anni, deve compiere 10, è abbastanza. E pensa che noi siamo stati a casa di Sant'Agostino quando ce n'aveva, ce l'aveva avuti 4-5. Sì, e spacciava casa. Cioè, era tipo, cioè, ti veniva l'attacco epilettico se lo segui perché non riuscivi a seguirlo, non stava nello stesso punto, esatto. Tipo 20 secondi. Allora dice, cioè, c'è il teletrasporto. Sto bambino, cioè. Infatti, a un certo punto Carlo ci ha detto, dobbiamo andare a lasciare il bambino ai nonni perché se no. Se no qua. Ecco, però ricordiamo che Carlo Sant'Agostino fa una delle carbonare migliori del nord, tra l'altro, cioè, così diciamo dico, così... che è una delle poche cose che so fare, diciamo, con la carbonara. Beh, la faccio niente. Con la ricetta romana ufficiale, quindi... bravo, benissimo. Invece Francesco, tu? Allora, tu penserai, anche tu starai lì a pensare, pensi, e fai l'umarella dell'umarella. Lumarella. No, quello mi capita solo quando vado a buttare l'immondizia fuori e poi rimango ipnotizzato quei 5 minuti. Ma no, allora, scusa, bello, io lo so, Francesco. Tu non butti l'immondizia fuori. Tu la butti dal balcone. Lo so che non dovremmo dirla la cosa del genere, però insomma. No, è una cosa di cui mi vanto in realtà. Non lo faccio più da mesi, secondo me sarei arrugginito a fare qualche figura di cacca, però oggi c'è passato, mi è venuta, no? cavolo, era stata portata giù, sono rimasto deluso perché mi era venuta voglia di far canestro. Comunque, a parte, cioè, non si lavora, ma in realtà si lavora, nel senso che comunque ho occasione di studiare, di leggere dei libri che ora ho modo di leggere che mi aiutano dal punto di vista lavorativo, sia di mettere appunto alcune cose meglio di quei progetti che sono rimasti in sospeso, soprattutto perché riandranno rischedulati ulteriormente, quindi dovrò vedere di condensare delle attività, delle cose, e sto riuscendo anche a vedere qualcosa, stranamente, a giocare non gioco più da dicembre, quindi proprio videogiochi sono off limits per adesso, però sto riuscendo a vedere qualcosa e ho deciso di fantastico. Sì, ho deciso di inguaiarmi questi 20-25 giorni con la stagione 3 di Twin Peaks, mannaggia a me. Qua Bravi, perché guarda, amici, secondo me ti fermi alla puntata 8, cioè, amici, se il coronavirus non ci blocca, io annuncio che la festa dei miei 40 anni sarà a tema David Lynch, e quindi siete tutti invitati, ovviamente, quindi siamo già lì, eh? Sì, preparatevi, esatto. Invece Walter Vannini, che non solo adesso non può andare più a scuola, a parte da The Nightmare, no? che fa Walter Vannini? Vabbè, però anche lui è babbo, quindi c'ha da gestire, insomma, tutto il... Sto in casa con una moglie e una bambina di 11 anni, che non è proprio la cosa più immediata del mondo, considerato che ovviamente 11 anni vuol dire che deve usare il computer, deve usare il cellulare, poi ovviamente gli si dà una mano per fare i compiti quando serve, e soprattutto si cerca di, come dire, non trasmetterle più angoscia di quella minimamente necessaria, per cui se ne scherza, si esce qui davanti casa a fare due passi giusto perché si riesce a non vedere nessuno, perché viviamo davanti a un parco, ci si arrabatta. Certo che le routine tradizionali sono sballate, saltate, completamente, sì, completamente sballate. C'è questa pretesa del ministero che la scuola non si ferma, naturalmente a fronte di non si capisce quali impotenti mezzi messi a disposizione, perché naturalmente i tablet, no? Allora, tu lo sai che non devi dire la parola tablet, perché sennò mi berserco, vado in modalità berserco quando mi parlano di tablet. Mi berserco, ragazzi, questa mi mancava. Allora spoiler dell'ultima puntata di Data Nightmare: se ancora non avete ascoltato, andate a ascoltare la puntata di Data Nightmare, così potete capire lo sclero e... No, devo dire che ci sono altre puntate dove lui si è però proprio moralmente, nel senso proprio più etico, è veramente una bellissima puntata. Due o tre volte di fila anche io, davvero stupenda, Walter, davvero davvero davvero. Oddio, non vedo l'ora di ascoltare, grazie, quella di domani. Ma grazie, quella che sta per arrivare, anche se Conte me l'ha bruciata, accidenta a lui, voglio dire, poteva aspettare qualche ora. Vabbè. Attia, Conte che fa spoiler. Vabbè, però permettimi, ti do il suggerimento, hai il tempo per modificarla, non so perché. Di sicuro. Vabbè, ragazzi, no. Allora, io penso una cosa, che così andiamo un po' a concludere pure, che veramente non lo so quello che succederà, so che comunque tutto questo lo affronteremo insieme, sono abbastanza convinto che c'è un buon senso di unità in questo momento, e anche la voglia di, sai, quando c'è la tempesta, no? Tutti dentro casa, un po' tutti un po' in silenzio, tutti tranquilli, e aspettare che passi questa cosa, perché un giorno passerà, sono sicuro che passerà, e ci farà anche bene questa cosa. Non l'abbiamo voluta, non ce la saremmo dovuta augurare, ma secondo me in qualche modo ci farà bene. Quindi io vorrei chiudere facendo un giro con tutti voi con un pensiero libero, cioè, nel senso, c'è qualcosa che volete dire riguardo questo, riguardo anche quello che cazzo vi pare a voi in generale, partendo dai Cipollas, poi Alex e poi tutto il resto del Cucuzzaro. Cipollas, sono andati a procreare. I giochi di ruolo, eccoli. E vai col picco di natalità. Io sono il dottore. Però meno male che hanno preso le precauzioni. Ragazzi, ci siete? Allora, vediamo un attimo. Hola. Vabbè, allora partiamo da Alex. Vabbè, dai, partiamo da Alex. Ho riconosciuto la musica. Alex, vai. Pronto? Pronti, eccoli. Noi ci siamo, voi ci siete? Sì, però non vi sentivamo più, non so cosa. Okay. Vai. No, non abbiamo procreato, sicuro. No, però eravamo un po' preoccupati, perché insomma... Sta sicuro, siamo più preoccupati di noi. Quindi per chiudere appunto, un pensiero, qualsiasi cosa, quello che vi viene in mente, una cosa che vi sentite di voler dire. Non vedo l'ora che riaprono le scuole. Questo è il messaggio che tu proprio lanci agli italiani. Ho molta, molta sincerità, perché veramente qua pure perché i bambini so, sta, perché sono belli i bambini. Ma io sto rispolverando il corsivo. Ah, fantastico. No, più che altro io ho un'amica che è maestra in un asilo e che sta preparando dei tutorial per i bambini, per i bambini un po' più grandicelli. Ma tu non c'avevi un'amica che era la moglie di tutte le madri? Assolutamente sì, c'ho un amico che è la moglie di tutte le madre di tutte le mogli. Esatto. E quindi niente, spero che le scuole comincino a prendere comunque in mano la situazione, cioè, tipo, da tutti i gradi. Adesso famo come dimo noi. No, comunque dai ragazzi, i bambini sono belli, li vogliamo bene, eh. No, però, vabbè, ma però comunque lì, noi devono essere collocati, no? Le schede, qualcosa fanno, però ovviamente non è la stessa cosa di quando stanno a scuola e la maestra gli dice di fare la cosa. Ma anche per loro, ma anche per loro, insomma, perché io penso il fatto che anche loro vivono un'anomalia, comunque vivono una quotidianità diversa e non c'hanno magari quella varietà che c'hanno durante l'arco della giornata, deve essere una domanda fuori dal contesto che mi è venuta a mente adesso. Poi, ma come gliela spiegate la situazione a sti bambini? Come... I zombie, fai vedere The Walking Dead e vi fai vedere, guarda, questo è quello che sta succedendo. Ragazzi, rispondete seriamente, per favore, non gli date retta. Il figlio mio tumore. Ci siete? Ragazzi, no, fate. Oh, mi raccomando, ma che vedevo sgridà come a scuola? Ho detto, come gliela spiegate la situazione ai bambini? Cioè, come gli fate capire quello che sta succedendo? Niente, gli abbiamo detto che c'è questo virus, perché loro poi già sanno tutto, perché per fargli lavare i denti ovviamente noi gli diciamo che ci sono i batteri, i virus, i germi, tutto. Sì, io gli faccio vedere, hanno già visto, siamo fatti così. Ah, ecco, grazie, grazie. Loro sanno bene di che cosa stiamo parlando. Ovviamente noi siamo sempre stati molto drastici, che questi germi ovviamente fanno di tutto di più, bucano i denti eccetera eccetera, perché se no non si lavano i denti. E quindi niente, adesso gli abbiamo detto che c'è questa cosa che ovviamente poi può far star male, poi hai la febbre e insomma queste cose qua, che bisogna stare lontani. E poi un po' su internet poi si trovano, sai, tutti i video, c'è il bambino che ti spiega che devi lavare le mani e loro vedono a ripetizione questi video e canzoni dei ricchi e poveri, pure l'ultima, sui coronavirus, di tutto di più, cioè, quindi diciamo che ci facciamo cullare un po' ricchi e poveri. La santità, sì. Bravo, faranno santi. Vabbè, comunque no, quando sarà passato tutto, se vi serve un supporto, Francesco è gratis, quindi effettivamente sì, fino a data da destinarsi sono gratis. Io tra l'altro annuncio che il mio psicologo, come è uscito emendamento, mi ha scritto, mi ha mandato un elenco, mi ha detto le sedute di terapia sono considerate servizio sanitario. Vabbè, quindi... ma non è che dobbiamo raccontare i cazzi. Puoi scaricare Vabbè, mica, vado da... Vabbè, comunque, Davide, invece un tuo pensiero finale. Pensiero finale, guarda, quando tutto finirà un po' mi dispiacerà perdere questa percezione di un tragitto casa-lavoro, lavoro-casa in un quarto ferragosto. D'ora, in un quarto sto d'ora. Vivendo un ferragosto che sta durando due settimane, è una roba così surreale che non capiterà mai più nella vita, credo. Sì, anche il tempo regge, quindi. Esatto, anche il tempo regge, tutto è una situazione veramente strana e questa è la prima cosa che volevo appunto... L'altra era una riflessione che avrei voluto dire prima, adesso è un po' tardi per farla, ma semplicemente per farvi riflettere lasciandovi, poi dopo ci pensate. Allora, questa malattia, come abbiamo saputo, esiste, e però si può riprendere più volte, non è che si prende una volta e poi è finita. E quindi mi domando, con la desincronia che c'è tra i paesi del mondo, ammesso che è un rimbalzo costante, certo. È un rimbalzo costante, come si potrà risolvere? Ci sarà un modo per risolvere? Solo il vaccino. E niente, basta. Io queste riflessioni. E poi infine sul discorso dei vecchi, che era una roba che volevo dire prima, non sono mai riuscito a intervenire nel momento giusto, però i vecchi secondo me hanno una percezione abbiano meno paura di morire rispetto ai giovani o ai, non, ai insomma, la, quelli della mia età, insomma, hanno molta meno paura di morire, quindi sono molto più spavaldi nella, ma chi se ne frega, andiamo fuori a chiacchierare, ma chi ci ferma, tanto se dobbiamo morire moriamo, e va a far bagno. Non lo so, la vedo così, per quello vedo veramente anch'io tantissimi vecchi e anche raggruppati spesso, non solo da soli che camminano, ma anche che si tossiscono addosso, che dai tossisco, che morimo, dai. Quindi niente, che dirvi, io che comunque per questi periodi continuerò ad andare a lavorare come anche nei prossimi giorni, sicuramente non andrò in pausa. Walter, noi Alex, mi tengo buono questo momento felice di strade sgombre e di zero persone in giro. Vabbè, ma guarda, anche gli altri sono contenti che la strada è sgombra, perché sapendo insomma che tu sei Nico Bellic, insomma. Ma ti vogliamo bene. Io comunque vi licenzio. Ma se ti ho detto che avevo un bonus malus al massimo livello, non ho mai fatto l'incidente. Ma allora, questo, ma tu lo fai. No. Esatto, non ti hanno potuto denunciare. Vai, Alex, col tuo pensiero finale. Ma l'avevo già detto il pensiero finale, sono il primo a cui l'hai detto. Ah, sì, vabbè, allora, Francesco. Pensiero finale, ma non ho la cosa perfetta, figa da dire. No, non deve essere necessariamente, insomma. No, no. E boh, che innanzitutto spero che quel vecchio non muoia, che non se lo dimenticano fuori al terrazzo un giorno di questo e pomodoro. Secondo me ti dispiacerà quel giorno, insomma. No, mi dispiace, poi non avrò, oltre a lanciare i sacchi dell'immondizia dal terrazzo, non avrò più altri hobby casalinghi oltre a quello. Vabbè, cazzata a parte, il rientro alla normalità non so come sarà, non so come sarà, dico per tutti in generale, ma sicuramente qualcosa avremo imparato da tutta sta storia, spero. Bene, anche se vai. No, niente da dire. Ma no, vabbè, ci sta. Non è obbligatorio. Vai, Walter. Oh. Ma guarda, di questo periodo, questa sarà una grande sberla, secondo me, ma di quelle proprio belle secche. E secondo me avrà l'effetto di risvegliarci da questo torpore etilico in cui ci siamo imbambolati negli ultimi, almeno nell'ultimo decennio, questo delirare di cose inesistenti, perdersi incazzate inammissibili, e io credo che riscopriremo il valore, il senso dell'informazione. Cioè, prima qualcuno aveva detto ma i provenienti sono spariti i Novax. Sì, sono spariti i Novax, viva Dio, e non c'è stato neanche bisogno dell'asteroide. Ma soprattutto, avete notato che, non so, fino a 3 settimane fa la gente ti diceva cosa aveva detto suo cugino su Instagram, che aveva sentito da un altro che gliel'aveva detto, e adesso la gente cita l'Istituto Superiore di Sanità, cita Roberto Burioni. Cioè, c'è stato un cambiamento completo e assolutamente improvviso, e secondo me questa è una cosa molto positiva. Domanda, scusami, visto che tu sei l'uomo del mondo, come il coronavirus influenzerà le elezioni americane di quest'anno? Ah, bisogna intanto vedere se sarà rimasto qualcuno vivo per votare negli Stati Uniti. Ah, ma era una puntata notturna questa. No, vabbè, è una domanda bella, soprattutto perché anche in America stanno sospendendo tutti gli eventi pubblici. Fanno finta che non c'è sta il virus. Anche certo. Le primarie, eccetera, eccetera. Stanno sospendendo le primarie e i giri di promozione dei vari candidati, che è una cosa che non si è mai sentita negli Stati Uniti. Ma anche le tournée musicali, però. Sì, certo, ma soprattutto noi vediamo quello che sta succedendo adesso in Europa. In Europa, non dimentichiamocelo, abbiamo una salita pubblica, messa meglio, messa peggio, ma abbiamo una salita pubblica. Negli Stati Uniti non c'è. No. Quindi quello che sarà negli Stati Uniti fra 2 settimane, io tremo soltanto all'idea. Quindi non so cosa sarà da qui a novembre, francamente. Vabbè, gli porteremo pure lì, gli daremo qualcosa. I cinesi gli porteranno qualche respiratore anche agli americani. Esatto, probabilmente. Va bene. Vabbè, comunque possiamo prendere spunto per approfondire in una prossima. Ma sì, sì, adesso voi piano piano vi prenderemo separatamente e faremo varie dirette. Che tutti quanti insieme è un po' complicato. Siete troppo disciplinati. Tra l'altro, non so se Carlo Sant'Agostino ha fatto il suo pensiero finale. Sì, sì, non l'hai fatto. No, non l'hai fatto. Vai, fallo. Fallo, che così salutiamo. Vai. Va bene. Vi ricordate? Chi è che si ricorda di Nick Carter? Mamma mia, ma questo denuncia una certa anagrafica che preferiremmo tenere nascosta. Esattamente, di Bombi. Vabbè, vi ricordate, c'era, per chi se lo ricorda, c'era un cinese dentro Nick Carter. Come no? Certo. Sì, sì. Il saggio. Sì. Io mi ricordo una frase, mi è venuta in mente in questi giorni, che c'era in una puntata, che diceva, come dice il saggio, se puoi fare qualcosa perché ti preoccupi, e se non puoi fare niente perché ti preoccupi. Perché ti preoccupi. L'inutilità del preoccuparsi in questo momento. Ma non preoccupiamoci, guarda, e speriamo che finisca bene. Guarda, io di questa cosa ne voglio parlare in una prossima puntata, perché noi abbiamo parlato con, io e Michele abbiamo parlato con il proprietario del ristorante cinese qui a Monterotondo, e ho capito che mo, al di là della cultura, sai, il discorso, la dittatura, tutto quello che ti pare, c'è comunque una cultura cinese che è veramente quella di stai seduto e aspetta, cioè nel senso che, ok, detta così è anche un po' banalizzata, però in realtà c'è un senso. Va bene, dai ragazzi, Michela invece chiude Michela questa trasmissione. Oddio, incredibile, ma cioè, veramente. Così salutiamo tutti gli amici che li mandiamo a dormire, facciamo un brano musicale, poi torniamo per quelli che ci ascoltano, quindi non per voi, siete collegati in Sky. E restate qua, che così poi vi salutiamo. Andate tranquilli, insomma, però subito dopo il brano musicale poi c'è un'intervista di 5 minuti, una fantastica intervista che dovete assolutamente sentire, perché ritorna, anche se purtroppo solo in chiusura, insomma un esperto, un professore che noi ogni tanto intervistiamo, che è il professor Pippo Campo, insomma, che di solito interviene Master. Sì, no, perché di solito interviene su OGM, insomma, però ecco, stavolta come eccezione siamo riusciti a ricontattarlo. Davide lo ha contattato privatamente e ho fatto l'intervista, quindi questo dopo il brano. Michela, vai con la conclusione, così poi salutiamo tutti e andiamo poi. No, vabbè, io concludo con quello che mi sta dicendo mio padre, che stranamente, che è l'uomo più pessimista che io conosca, nonostante il più forte che io abbia mai conosciuto, perché ogni giorno mi dice: sarete protagonisti di una grande rinascita. Quindi non so se Berlusconi si è impossessato di lui o semplicemente sta delirando, insomma, perché l'abbiamo rintanato abbastanza lontano, perché comunque è diabetico, e quindi abbiamo detto devi stare buono e calmo, insomma, quindi, e quindi non lo so qual è, se è un delirio o se veramente sarà così. La cosa che più semplice che mi aspetto è che questo periodo ci porti comunque a riscoprire la pazienza, quindi la pazienza di capire che tutto è possibile e tutto è niente è impossibile, tutto è possibile, quindi ce la possiamo fare, quindi ci vorrà tanta forza, ma ce la possiamo fare. E poi voglio dire, perché c'è Valeria qua, ma non perché soltanto perché c'è Valeria, però lo voglio dire comunque, io non vedo l'ora di abbracciare le mie amiche che non riesco mai a incontrare, insomma, quindi stavolta proprio ci sarà un mega abbraccio liberatorio con le nostre super lacrime che insomma non mancheranno mai. Lacrime virili, naturalmente. Va bene, va bene. Alex, invece domani sera c'è un'altra live Runtime, giusto? Sì, dopo soltanto 4 mesi torna MDV Summer Radio, una puntata a due voci, io e Samarobi, che facciamo una puntata che si chiama State a casa Barcam, però che è una puntata sulla, nel senso, dobbiamo stare a casa, allora Barcam, facciamo un po' di festa. E vi prometto che una di queste mattine, probabilmente non domani, venerdì mattina, faccio una live in cui spiegherò che cos'è Barcam, cioè il formato, il codec video Barcam. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora adesso, come avevo detto, brano, poi noi con gli ascoltatori ci vediamo fra 3 minuti, e intanto noi andiamo a salutare i nostri amici, ci sentiamo fra pochissimi secondi. Ciao. La più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre. È che mi lasciavo trascinare in giro dalla tristezza, quella che ti frega e ti prende le gambe, che ti punta i piedi in quella direzione opposta, così lontana dal presente. Ma noi siamo quelli che restano in piedi e barcollano su tacchi che ballano, e gli occhiali li tolgono con l'acceleratore fino in fondo, le vite che sfrecciano. E vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi vigili, attenti e selvatici degli animali. È che mi voltavo a guardare indietro, e indietro ormai per me non c'era niente. Avevo capito le regole del gioco e ne volevo un altro, uno da prendere più seriamente. È che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano in piedi e barcollano su tacchi che ballano, e gli occhiali li tolgono e con l'acceleratore fino in fondo, le vite che sfrecciano. E vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fai. Avremo gli occhi vigili e attenti e selvatici degli animali. E più di una volta e più di un pensiero è stato così brutto da non dirlo a nessuno. Più di una volta sei andato avanti dritto, dritto sparato contro un muro, ma ti sei fatto ancora più male aspettando qualcuno. Ma ti sei fatto ancora più male aspettando qualcuno. Siamo quelli che restano in piedi e barcollano su tacchi che ballano, e gli occhiali li perdono sugli autostrade così belle, le vite che sfrecciano. E vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fai. Avremo gli occhi vigili e attenti e selvatici, e selvatici, selvatici. Siamo quelli che guardano una precisa stella in mezzo a milioni, quelli che di notte luci spente, finestre chiuse, non se ne vanno da sotto i portoni, quelli che anche voi chissà quante volte ci avete preso per dei coglioni, ma quando siete stanchi e senza neanche una voglia, siamo noi quei pazzi che venite a cercare. Quei pazzi che venite a cercare. Quei pazzi che venite a cercare. Quei pazzi che venite a cercare. Noi siamo... Va bene, naturalmente, scusate, naturalmente doveva partire un audio che fino a 5 secondi fa funzionava e adesso quando doveva funzionare non funziona più, ma è la vita che è infame, è balorda e non ci possiamo fare niente. Senza, il coronavirus ci ha dimostrato proprio questo, quindi. Che la vita è balorda, è infame? Sì. Può essere, sì sì, ma in realtà guarda, prima di salutare invece mi sono accorto che forse ho capito perché non è partito l'audio. E quindi aspettate un secondo che adesso c'è questa bellissima intervista che dura 5 minuti e poi torniamo e vi salutiamo. quindi vediamo un attimo. Perché... Cari ascoltatori di Runtime Radio, volevo annunciarvi che stasera è ritornato a grandissima richiesta l'illustre dottor Giuseppe Filippo Campo, psicologo, psicoterapeuta con l'orientamento psicocorporeo, che ci farà un po' sapere il suo punto di vista su quanto sta accadendo di questi tempi e inoltre ci darà utili suggerimenti su come affrontare il fenomeno. Dottore, a lei la parola. Ma buonasera carissimi, finalmente riesco a ritornare. Scusate, ma l'ultimo anno e mezzo è stato particolarmente impegnativo e ho dovuto rinunciare a buona parte delle uscite pubbliche. Ma voi che mi dite? Come state vivendo questo periodo, direi inedito, per la nostra generazione e non solo? Va bene, tutto sommato. Lei come sta? Cosa sta facendo per passare il tempo? Ma ci si dà da fare. Qui a Colcate non ci si ferma mai. Anzi, proprio ora stiamo affrontando un'emergenza parallela a quella del Covid, a cui ancora non siamo riusciti a dare un nome convincente. Magari riuscirete ad aiutarci in merito. Ah, cavoli! Potreste parlarcene di questa cosa? Ma certo che ne parlo. Sono qui apposta. Ma si tratta di una condizione ancora scarsamente definita, proprio perché è emersa di recente, il cui confine tra normalità e patologia è piuttosto labile. Non abbiamo ancora messo a punto degli strumenti diagnostici davvero efficaci, ma ci stiamo lavorando alacremente. E questa condizione riguarda un certo pattern di comportamenti che vanno da gironzolare per le strade incauti delle misure predisposte dal governo, magari cercando di coinvolgere anche altra gente a fare altrettanto, e rigorosamente tutto senza l'autocertificazione, fino addirittura all'ostentare palesemente la propria inottemperanza delle suddette misure, rispondendo, se interrogati in merito o, nei casi peggiori, senza essere interrogati, con argomentazioni vaghe e inconcludenti circa l'incostituzionalità dell'imposizione di tali limitazioni della libertà individuale, o addirittura minimizzare gli effetti del Covid come quelli di una normale influenza stagionale, solo un po' più contagiosa, o al fatto che tanto muoiono sono i vecchi, che loro sono giovani non subiranno conseguenze mortali, oppure a citare gli oramai consueti Soros, le banche, l'Europa, le case farmaceutiche e giù di lì. Tutti comportamenti però che denotano una certa carenza dell'esame di realtà, se non dei veri e propri deficit cognitivi. Accidenti! Ma è possibile fare qualcosa in merito? A Corcate avete individuato dei modi per gestire queste persone? Ma sì, proprio negli ultimi giorni, per cercare di arginare la situazione, stiamo elaborando dei protocolli e delle linee guida circa i comportamenti da attuare nel caso ci si entri in contatto con persone che manifestano tale sintomatologia, che consistono innanzitutto nell'evitare di rispondere a tono alle provocazioni o addirittura cercare di argomentare logicamente le loro motivazioni. È inutile cercare di argomentare logicamente. E soprattutto invitarli cortesemente a tornare a casa. Ma non cazzo vai? A non cazzo vai girando come un mamma lucca con chi lucidro in lungulo? Che sei seduto a mezza naviglia? Che cazzo te la menda a fare che non ci sta nessuno a parte gradi 3-4 stronzo come a te? Ma non facessi come il capo fin quando gli ho dato sangue? Buon sangue ho fatto e come fa dietro a me? Ma state a casa, state a casa. Tu non puoi cazzo stare a casa. Ma non perché ho detto buon cazzo a me che voglio stare a casa? State a casa. Oppure che cazzo ti faccio trovare una fatica? Non tiene genere di fatica? Almeno da fare qualche cagata cosa per passare il tempo. Che cazzo ne sa? Ci siamo rotto dei pugnetti da che la zoccola è zitta. No, che okay, la tacchi zoccola. Sembra un metro di distanza, però è roppo pulizzata in mano suzzosa. Non c'è sta zitta. E quello è il problema. Tu metti a conti i peli che ti hanno coppo, cazzo. E quando è venuto, tu metti a conti i peli che stanno coppo a fessi che la cessa e mamma da. Basta che tu stai a casa e non mi fai a stumo po' da terna. Da che lucesse scurnacchiate i palata. Quando srombetta la televisione e te ne uso a che l'anguacchiate i mamma da per passo tempo. Oh, e ancora secca. Vattene a casa. Questo dovrebbe essere sufficiente per buona parte dei casi, ma stiamo ancora lavorando per le indicazioni da ottenere per quelli più severi. Bene, questo è tutto per ora. Spero che le indicazioni siano state chiare e soprattutto utili. Scusate, ma devo lasciarvi subito, come ho detto qui non ci si riposa mai. Buon proseguimento, buona serata e mi raccomando, restate a casa. Grazie dottore per le utilissime informazioni che ci ha regalato stasera. Con la speranza di risentirla quanto prima, la saluto e la ringrazio nuovamente a nome di tutti. Da Runtime Radio è tutto. Buona continuazione. E bene dopo aver sentito questo fantastico esimio, insomma, illustre partecipante, insomma, intanto collabora con noi a Runtime Radio e ci ha spiegato, insomma, ci spiega queste problematiche, queste cose, insomma, serie, queste cose importanti. E noi andiamo verso la chiusura di questo episodio, che è il primo episodio di una serie di cose che faremo durante queste settimane, perché noi lo facciamo per passione, lo facciamo per divertimento. Io e Michele abbiamo iniziato, pensate, quasi 10 anni fa a fare podcast. Poi lei è mancata per tanto tempo perché aveva delle cose sicuramente più serie da fare, però so che dentro di lei un po' la voglia magari di ritornare a fare questa cosa c'è. Questa può essere una buona occasione, perché noi abbiamo detto che nessuno deve restare da solo, che è la cosa più importante. Bisogna stare uniti, insieme, magari tenere su alto lo spirito e il morale, perché è l'unica maniera per superare questa grande crisi. Michela, stai cercando di sabotare la mia intenzione di imparare a suonare la chitarra convincendomi a fare podcast. No, vabbè, tornerò, nel senso, in questi giorni, allora, ma anche estemporaneamente, passata la confusione mentale, sicuramente rimetterò mano a Mono, perché Mono è un prodotto c'ha la sigla bellissima. Sì, no, Mono perché vabbè, però comunque è un buon prodotto e andrà comunque rispolverato. E niente, e torneremo comunque a fare un po' di intrattenimento, perché comunque sappiamo che in qualche modo potrebbe aiutare un po' tutti. Quindi rimane valido l'invito del crossover, rimane valida la disponibilità a collaborare con tutti gli speaker di Runtime, che comunque si sono resi disponibili tutti, anche quelli che non ci sono. Ci sono Walter, Marco, gli altri, insomma, che si sono resi disponibili a intrattenere il pubblico. E facciamo un po' la radio sottobanco, quella che ci piaceva tanto. Quindi torniamo qua e non vi lasciamo da soli, insomma. Mentre voi restate a casa, noi restiamo con voi. La radio sottobanco, la radio di notte, la radio sottovoce, la radio guardando fuori dalla finestra e aspettando che la tempesta passa. Questo è quello che vogliamo fare, ci siamo ripromessi di fare con voi. Grazie a tutti, anche quelli che hanno partecipato in chat, anche se non ci abbiamo buttato tantissimo l'occhio sulla chat, ma magari le prossime volte lo faremo sicuramente. E sono contento di essere qua con mia moglie, perché comunque questo è un pezzo della nostra storia, e quindi la vogliamo condividere con voi e speriamo di farvi compagnia nelle prossime serate. Grazie a tutti, buonanotte. Ciao.